L'apice di selezione dei miei capelli andranno via via sempre più salendo e imboccolandosi. Non spaventatevi, è vero. Sappiatelo, non sono io che sto subendo una metamorfosi. Non l'avete registrato, vero? Avete domande? Qualcosa da chiedere sulla lezione precedente? Sicuri? Va bene. Aspettiamo un attimo. Oh, se vi ricordate, ci siamo lasciati parlando della nave dei folli. E abbiamo analizzato solo, non so che qualcuno dice più che abbastanza, solo la nave dei folli. Secondo una critica abbastanza recente, la nave dei folli non sarebbe un'opera unica, ma sarebbe stata facente parte di un dittico o forse di un trittico. E parte della critica, la più recente perlomeno, ritiene che a fare pandan con la nave dei folli fosse un'altra tavola a noi pervenuta, databile intorno al 1494, intitolata La morte dell'avaro. Io vi dico la verità, poi vero, ovviamente chi formula questa ipotesi è un esperto del settore e si occupa in modo diretto di Bosch. Intorno al 1494. Ma se noi andiamo a vedere le due opere, rivediamo un attimo La nave dei folli, parrebbe non esservi proprio nessun legame tra queste due opere. Bosch non fa quasi niente per caso, anzi non fa proprio niente per caso. E se devo essere sincera, io faccio fatica a vedere il nesso tra queste due opere, se non per i soliti discorsi generali. Nelle altre opere che noi abbiamo montate, quindi il trittico è un trittico e non ci sono dubbi, se la parte centrale è in esterno, anche le due tavole laterali sono in esterno. Se siamo in un interno, anche le laterali sono in un interno. La linea dell'orizzonte resta la stessa nelle tre tavole e c'è sempre un nesso logico conseguenziale che va da sinistra a destra, cioè proprio c'è una lettura logica che possiamo fare. Che so, le tentazioni e l'inferno, oppure il paradiso terrestre, le tentazioni e l'inferno, oppure la caduta di Lucifero e del suo seguito e poi la speranza dell'aldilà. Cioè c'è un nesso logico tra tavola e tavola. In questi due lavori, questa continuità non c'è, né spaziale né significato. Per cui, senza nulla togliere a chi di mestiere si occupa solo di Bosch, personalmente nutro delle perplessità sul fatto che fossero agganciate, che fossero sorelle, ecco, a meno che non venissero, non fossero state proprio commissionate con una motivazione particolare che a noi sfugge. Allora sarebbe un discorso diverso. Dimmi. Si può magari scrivere una. Certo. Sì, se volete magari anche tenere accese solo quelle dietro, questa spegnerla, a me va bene. Per cui diciamo che prendiamo con le pinze il fatto che potessero essere gemelle, che potessero essere una accanto all'altra. Vi ripeto, esterno la nave dei folli, un interno la morte dell'avaro, linea dell'orizzonte che non coincide, personaggi differenti, non lo so, insomma, è una delle tante possibilità, non una certezza. Cos'è di particolare? Qui stiamo vedendo di fatto il disegno. Vediamo l'olio, che così magari vi aiuta un po' di più. No, è questo. Cosa di particolare? Beh, se notate, prima di tutto noi conserviamo quel famoso letto a baldacchino rosso di cui già abbiamo parlato per Van Eyck e anche per altri artisti. Abbiamo, e su questo torneremo per altre tavole, abbiamo la morte che fa visita ad un uomo che è nel proprio letto, probabilmente questa è la sua camera da letto. Abbiamo il nodo, dicevamo più volte, probabilmente era proprio un vezzo di tenere, no, un telo piegato e chiuso con un nodo interno. E abbiamo quest'avaro nel proprio letto di morte, in una camera dove ha accumulato probabilmente i tesori più preziosi intorno a sé. Sacchetti di monete, vari oggetti all'interno della cassapanca che poi vediamo aiutandoci con il disegno, e il bene e il male che vengono per accaparrarsi la sua anima. Tutto dipenderà se proprio nell'attimo del trapasso deciderà di pentirsi di quello che ha fatto nella vita, accumulando probabilmente senza ritegno, oppure deciderà di andarsene felice di aver accumulato così tanto denaro. Perché dico bene e male? Perché se notate, intorno a quest'uomo noi abbiamo un angelo che guarda verso l'alto e non guarda questo elemento demoniaco che ha sopra il baldacchino, ovvero guarda fuori dalla finestra, e poi vedremo perché, e quindi è la parte del bene, e non a caso gli mette, vedete, una mano sulla spalla, tentando in un certo senso di convincerlo a convertirsi e a pentirsi. Dall'altra invece abbiamo un piccolo mostriciattolo grigiastro che sale da sotto le tende del baldacchino del letto e gli offre un altro sacchetto d'oro, come a dire: se resti con me sarai sempre più ricco. Per cui diavolo, diciamo così, e angelo si stanno giocando, si stanno contendendo l'anima di questo futuro defunto, perché è ancora in vita. Cos'ha di particolare quest'uomo? Che, essendo avaro, probabilmente ha risparmiato anche sul cibo e quindi è magrissimo. Ci sono delle caratteristiche fisionomiche nel 400 che caratterizzano i vari peccati, e ne parleremo nelle prossime lezioni. Per quanto riguarda l'avarizia, solitamente l'avaro ha un naso aquilino, è molto magro, pallido, E l'unico interesse che ha è quello di accumulare denaro, per cui è un uomo anche privo di fantasia, se non verso i soldi. E ricordatevi che l'avaro, se parliamo di peccati capitali, è un uomo che non raccoglie denaro per fare qualche cosa, è un uomo che vive in totale povertà e che vive per accumulare denaro, non per utilizzarlo poi. È un molto più di Paperon de Paperoni, per capirci, no? Perché Paperone accumula, poi è un tirchio pazzesco, però tutto sommato si gode anche la vita, no? Il bel palazzo, i tuffi in piscina, mangiare, eccetera. Non rientra nella tipologia dell'avaro, rientra nella tipologia del tirchio, casomai, di colui che cerca di risparmiare dappertutto per avere enormi quantità. L'avaro invece è colui che si priva di tutto pur di avere denaro e gode del fatto di avere denaro, ma nemmeno lo mette in mostra questo denaro, lo tiene nascosto. Molière, e con Molière anche Goldoni, saranno degli straordinari descrittori di questo peccato capitale nelle loro commedie. Di conseguenza qui la tipologia rientra, la casistica c'è: naso aquilino, molto pallido, magrissimo e preoccupato di avere proprio denaro, perché se notate tutto sommato questa stanza non ha nulla di sontuoso, le pareti sono completamente spoglie, ha un letto sobrio, non vediamo gioielli, non ci sono suppellettili particolari, niente di niente, per cui è una stanza spoglia che potrebbe essere anche di un uomo poverissimo. Chi ha intorno a sé? Beh, innanzitutto, scusate, prima di parlare dei personaggi, diamo un'occhiata proprio a questa stanza che, se ricordate, dovrebbe rimandare la vostra memoria ad alcune opere che abbiamo già visto, Van Eyck, ma anche Campin o Campin, come preferite, ma anche Antonello da Messina, perché un po' lo studio che abbiamo lasciato di San Gerolamo, se vi ricordate, aveva questa carenatura, no, nel soffitto, che dicevamo appunto con le finestre gotiche, eccetera. Per cui rientra in una tipologia architettonica sicuramente dell'epoca, assolutamente dell'epoca. Legno nel soffitto, muratura lungo le pareti. Una sola finestra, perlomeno quella che vediamo noi, ma soprattutto questa enorme finestra, quasi fosse una finestra su un mondo particolare, che costituisce il quadro stesso, perché se notate noi siamo collocati davanti alla stanza, come se Bosch, per farci vedere che cosa accade nella stanza, avesse tolto una parte di parete o avesse spalancato una porta finestra. Ecco, forse questo ci aiuta di più. Ci fa vedere, vedete, due colonne, un muretto nella parte inferiore e ci dà la muratura esterna di questo soffitto ad ogiva. Perché è come se noi ci stessimo affacciando dentro ad una stanza. Noi non siamo nella stanza. Anzi, se notate, questi che probabilmente sono gli abiti dell'avaro, sono appoggiati sul muretto come se il muretto facesse proprio parte della stanza, fosse una sorta di davanzale della stanza stessa. Potrebbe aver combattuto in vita, e questo potrebbe esserci raccontato da un elmo, un'elsa, una spada, una lancia e un guantone, dimenticati, abbandonati in un angolo. Avrebbe potuto essere un cavaliere, quindi. Perché l'angelo guarda verso la finestra? Perché se notate, questa è una cosa interessante, la finestra ha incastrata all'interno, incuneato all'interno, una croce con il Cristo. Per cui noi abbiamo questa piccola finestrella a ogiva, per cui a sesto acuto, con un crocefisso che è proprio posizionato davanti all'unico vetro che vediamo di tutta la stanza. E il raggio di luce che entra e che va a colpire idealmente l'avaro passa attraverso il crocefisso in questo modo. Se ci pensate, è una posizione bizzarra, perché noi non l'abbiamo visto in nessun altro artista, il fatto di avere il crocefisso sul davanzale della finestrella, appeso davanti alla finestra. È una peculiarità di quest'opera. E per quanto io ricordi, nemmeno in Bosch poi ritroveremo una croce posizionata davanti ad una finestra. Questo sembra quasi uno stratagemma per indurre l'angelo a rivolgersi verso l'unica fonte luminosa della stanza, andando a far coincidere luce che entra dalla finestra con luce di redenzione del Cristo sulla croce, per cui andando, diciamo, a combinare due elementi con un'unica azione. Noi crocifissi li abbiamo visti finora appesi sulle cappe dei camini o sulle pareti delle stanze. Pensate anche allo specchio dei coniugi Arnolfini, no? Lo specchio è un po' anche un modo per farci vedere una via crucis, è un po' come se fosse anche un crocefisso affisso all'interno della stanza. Qui è una posizione questa assolutamente anomala, ma che probabilmente unisce, diciamo, queste due situazioni. Il mostro, dalla colorazione marrone che si affaccia da sopra il baldacchino, regge un bastone con, sembra un piccolo canestro. Questo bastone, che può reggere anche un fagotto in alcune situazioni, è un elemento che noi ritroveremo sull'esterno del trittico delle delizie. Ed è il bastone, non si preoccupi, se deve tossire tossisca, perché sennò sta malissimo. È il bastone del viandante. Ah, il bastone che anche nei cartoni animati ogni tanto ritorna, no? Uno che parte, fa fagotto, se lo mette sulle spalle e va. Ovviamente rientra in qualche cosa di molto più antico rispetto ai nostri traslochi odierni. Di conseguenza, quel bastone con il fagotto all'estremità o con un contenitore all'estremità ricorda proprio l'idea della partenza, l'idea di colui che se ne va. Ma guardate che quello stesso bastone noi lo ritroveremo anche nel matto. Matto del quale ogni tanto parleremo, che trae spunto iconografico da qualche cosa che a metà 400 inizia a prendere piede divenendo una moda nelle corti dell'epoca, che è la consultazione delle carte dei tarocchi. Il matto è una di quelle carte ed è una rappresentazione che ci dà una sorta di giullare con appunto scarpe a punta, con la giubba, con i sonagli, che porta un bastone a tracolla con un fagotto. Solitamente è anche accompagnato da un piccolo cane ed è una carta che solitamente rappresenta l'imprevedibilità, la poca certezza, gli imprevisti della vita. E se non ricordo male, corrisponde al numero 9. È il 9 il matto? No. Sto dicendo una sciocchezza. È il 22? No, me lo dico. Non se lo, lei lo sa? No, perché mi dice di no? No, aspettate. Vado a vedere, d'accordo? Vado a vedere, perché non sono avvezza alla consultazione dei tarocchi. Comunque, insomma, è una delle carte ricorrenti, è una delle carte sempre presenti nel mazzo. Sono sempre 22 carte. Perché cito una cosa che sembra non c'entrare nulla con un corso serio di storia dell'arte sulla pittura fiamminga. Caspita, i tarocchi, sembra un gioco di intrattenimento. Perché all'epoca tutto erano tranne che un gioco, rientravano proprio nella magia di corte, nella consultazione del futuro, erano i nuovi aruspici dell'umanesimo, e perché artisti molto illustri verranno chiamati proprio a dipingere le carte dei tarocchi. Andrea Mantegna, fra tutti, per esempio, realizzando 4 mazzi per varie famiglie europee. Quello che a noi giunge più completo è il mazzo Sforza, quello appunto dipinto per la famiglia Sforza di Milano. E perché, guardate, ne parlammo 2 anni fa durante un altro corso, le figure dei tarocchi, e anche questa è una storia tutta da scrivere, compaiono con grande, grande assiduità e regolarità sulle corazze da parata militare. Soprattutto la carta, l'immagine dell'imperatore, della fortuna, della temperanza e della giustizia. E le troviamo, queste immagini che corrispondono esattamente a carte del mazzo dei tarocchi, le troviamo sulle corazze da parata sempre in determinate posizioni. La temperanza la troviamo quasi sempre sul lato sinistro della corazza, per cui sul nostro lato destro. La giustizia la troviamo a destra. E nella parte centrale noi troviamo l'imperatore. E se andiamo a leggere alcune corazze da parata di famiglia Sforzi, realizzate proprio dalle fonderie milanesi, perché guardate, Milano era proprio la città più rinomata di tutta Europa per le corazze, soprattutto le corazze da parata, che erano delle cose sconvolgenti per la bellezza e la complessità, sarà la città dalla quale partiranno tutta una serie di corazze indossate poi dai sovrani d'Europa. Filippo II di Spagna, per esempio, avrà nel proprio corredo delle corazze forgiate a Milano, donate da famiglie italiane per compiacere il sovrano. Il fatto che vi siano queste immagini a sbalzo sulle corazze da parata significa che quelle immagini hanno dei significati profondissimi, nei quali la cultura, l'intelligenza umanista e rinascimentale crede in modo profondo. Il fatto di conseguenza che un'altra carta, vero, la carta del matto non appare nelle corazze da parata, abbiamo l'imperatore, la temperanza, la giustizia, cioè elementi che rappresentano l'imperatore, il potere, la forza, l'accentramento, la temperanza, la capacità di mediare, di essere tolleranti, di pensare prima d'agire, la giustizia, la capacità quindi di emettere dei giudizi sensati, ponderati. Sono carte e immagini che rientrano nei doveri etici di un buon sovrano. Buongiorno. Si è data da sé un'ombrellata in faccia. Cioè. Il matto invece è una sorta di controimperatore, è l'imprevedibilità, è appunto l'imprevisto che può accadere. Ma forse in questo caso il bastone ricorda più l'idea del viaggio. Quest'uomo sta per morire, se ne sta per andare, sta per andarsene, e di conseguenza questo fagotto è un po', diciamo, quello che resta della sua vita. Raccoglie quel poco di suo, tolti i soldi, e si prepara al lungo viaggio verso l'aldilà. A fargli visita è l'ospite peggiore che si possa immaginare, è la morte stessa. Entra dalla porta come se fosse una persona, È coperta da un lenzuolo, ricorda il sudario, per cui è proprio una sorta di regina dei morti che arriva a prendersi la vita. Attenzione, vero? La morte porta via la vita, non porta via l'anima. Sono due cose diverse. L'anima se la giocheranno diavolo e angelo, non la morte. Alla morte non interessa nulla di quello che accadrà all'anima. Alla morte interessa fare incetta di vite, non di anime. La morte è oltre il giudizio religioso, non c'entra niente. La morte rientra nella biologia, è un qualche cosa di pratico, è un qualche cosa di fisico. L'anima è qualche cosa invece di estremamente spirituale, e quindi spetta alla sfera spirituale gestire il viaggio dell'anima. Alla morte interessa portarsi via la vita. E questa morte entra, se notate, anche con discrezione, perché non spalanca la porta, la socchiude, entra camminando probabilmente in punta di ossa e porta con sé l'elemento necessario per uccidere. In questo caso è una freccia d'arco, una lunga freccia. Una freccia che probabilmente incoccherà in un arco e lancerà per portare via la vita a quest'uomo. Noi l'arco non lo vediamo, ma è improbabile che gliela lanci a mo', vero, di cerbottana. Non esiste. Solitamente la morte, nella tradizione iconografica del 400, porta sulla schiena una faretra. Sapete cos'è una faretra? L'astuccio dentro il quale si custodiscono le frecce. Volgarmente un portafrecce, si chiama faretra, e un arco. La morte quando passa, solitamente passa cavalcando un cavallo a sua volta morto, per cui lo scheletro di un cavallo, quel che resta di un cavallo, con appunto faretra, arco e incocca frecce per ammazzare gli uomini, per uccidere gli uomini. L'altra possibilità è che porti via la vita con una lunga falce, come se recidesse la vita a mo' di spiga di grano. Per cui non è sufficiente la presenza della morte o il passaggio della morte perché la morte possa portarsi via la vita. La morte viene proprio raffigurata come se fosse una persona che uccide attraverso la falce o attraverso le frecce. Guardate che siamo in un periodo, ne parleremo nelle prossime lezioni, in cui la morte è costantemente presente. La morte è qualche cosa che accompagna la vita quotidiana molto più che per noi oggi, che non vediamo mai morire nessuno, salvo incidenti d'auto, perché oggi è vietato morire davanti alle persone. In ospedale chi sta morendo viene chiuso dentro a dei teli e nessuno lo vede morire, a volte neanche i familiari. La morte è diventata qualche cosa che non va vista. Raramente si consente ad un malato di morire a casa, per esempio. Quindi noi non abbiamo nemmeno la percezione dell'odore della morte, perché anche i cadaveri che ci capita di vedere, purtroppo, li vediamo già semi imbalsamati dentro a delle bare refrigerate. Per cui noi abbiamo semplicemente l'immagine della morte, ma non abbiamo l'odore della morte, non abbiamo la fisicità della morte. Se non, vi ripeto, in situazioni drammatiche di incidenti per strada che ci capita di vedere. Ma in quest'epoca la morte apparteneva alla quotidianità. Le persone morivano a casa, le persone morivano per strada. I cadaveri durante determinate epidemie, e ricordatevi, vero, che nel 1400 vi furono delle epidemie di peste impressionanti che coinvolsero tutta l'Europa Il nord Italia ne venne colpito intorno al 1430, se non vado errato. La morte viaggiava sui carretti, perché c'erano così tanti cadaveri da raccogliere che si buttavano su dei carri nemmeno chiusi per spostare questi cadaveri e buttarli nelle fosse comuni. Di conseguenza, la percezione della morte era qualcosa di assolutamente esperito, conosciuto e di vicino. Tanto più una cosa che mi terrorizza mi è vicina, tanto più io devo esorcizzarla. Se ci pensate, nessuno di noi ha la necessità di esorcizzare la morte. Non è che noi al mattino ci svegliamo e facciamo qualcosa per esorcizzare la morte, perché noi la morte non la vediamo. L'uomo del 1400, che la morte ce l'ha dentro casa o ce l'ha come vicina di casa, quotidianamente deve esorcizzare la morte. E sarà probabilmente per questo motivo che soprattutto sul finire del 1300 noi vedremo nascere in modo incredibile, ma ne parleremo, tutta una serie di danze realizzate da scheletri, tutta una serie di danze fatte magari nel periodo di carnevale da finti scheletri per allungare la vita. Le cosiddette danze macabre, di cui non conosciamo la vera origine, quando nascono, dove nascono, ci sono tante ipotesi, ma nessuna certezza. La danza macabra, appunto, si sviluppa, iniziamo ad averne testimonianza, più o meno da metà 300, 1300, in poi, con un apice straordinario nella prima metà del 1400. Vi ripeto, talvolta sono proprio dei personaggi che si travestono con sacchi di juta su cui si dipinge lo scheletro e danzano delle danze abbastanza disordinate, percuotendo a volte anche degli ossi, non ossa umane ma ossi d'animale, come percussioni, sicuramente proprio per invitare la morte a stare lontana, a distrarsi, a preoccuparsi di qualcun altro o di qualcos'altro, ma non di se stessi. Ecco che la morte inizia ad avere una presenza anche iconografica, sia come danza macabra, sia come colei che viene a portare via le vite. E la cosa particolare è che per esorcizzare la morte si esalta la morte stessa, i trionfi della morte. Ne abbiamo perlomeno tre molto importanti. Una di queste è il famosissimo trionfo della morte di Palazzo Abatellis a Palermo, di cui parleremo. Questa grandissima, grandissima opera che supera i 5 metri d'altezza, molto grande, che venne strappata da quello che era l'allora Palazzo dell'Inquisizione, palazzo dentro il quale abbiamo le cronache, accadde di tutto e di più. Questo grandissimo affresco ci dà una morte che lancia frecce, che galoppa su un cavallo morto e che uccide tutti coloro che è intorno grazie a dei dardi, grazie a delle frecce. Un altro trionfo della morte, noi l'abbiamo dentro ad una chiesa a Galatina, per cui siamo fuori Roma, ed è un enorme trionfo della morte che sul lato destro, l'estremo lato destro, porta una crocifissione. Per cui si mette il trionfo della morte nel Palazzo dell'Inquisizione a Palermo, il luogo peggiore nel quale si possa capitare. Penso che neanche i lager nazisti siano riusciti a fare quello che seppe fare l'Inquisizione spagnola, come qualche cosa che rientra nel destino di chi non si è comportato bene. La vedremo insieme, questa grandissima manifestazione della morte. È un monito: se non sei stato retto, verrai ucciso, morirai. E la morte non sarà così naturale, morirai proprio ucciso da una freccia. Se sei stato giusto, la morte passerà oltre o si dimenticherà di te. Nell'affresco, nel grande affresco di Galatina, questa morte invece passa e uccide con la falce, proprio taglia via le erbe cattive. Ed è in un luogo sacro, dentro ad una chiesa, non è uno spazio, diciamo, laico, una caserma o un luogo di tortura. Come se l'uomo che è in peccato mortale ricevesse come estrema punizione la privazione della vita. E che questo trionfo della morte sia in un certo senso al galoppo verso la crocifissione, o che perlomeno la crocifissione sia il modo per risolvere la morte. Perché ricordatevi, la crocifissione teologicamente è necessaria per la resurrezione. Per cui, tutto questo discorso per dirvi che la morte è un elemento quotidiano e rappresentata a livello iconografico come se fosse proprio uno scheletro che serenamente passeggia all'interno della città o per le vie della campagna per eliminare chi non è in grazia di Dio. E se notate, qui Bosch fa un'angolazione interessante tra il raggio di luce che entra dalla finestra verso l'avaro e la direzione della freccia che ha in mano la morte. Se noi andassimo proprio a scendere bene con una stecca per vedere dove cade il raggio di luce, ci renderemo conto che batte sul cuore del futuro morto. Per cui la luce divina colpisce il cuore. La freccia della morte, invece, se voi la fate proseguire, va a colpirlo alla pancia. È come se queste linee avessero funzioni diverse. Dio redime, Cristo redime l'anima, e secondo la tradizione quattrocentesca l'anima sta dentro il cuore di un uomo, e all'epoca si riteneva che il cuore fosse al centro del petto, non spostato, vero? Sulla sinistra, ma proprio al centro. La morte invece colpisce la parte carnale dell'uomo, e quindi la pancia, che è anche il luogo degli appetiti, che è anche immagine di sessualità. Per cui morte e redenzione passano attraverso la carne per vie diverse. La redenzione attraverso il cuore, la morte attraverso la pancia. Se notate, niente si preoccupa della testa di quest'uomo. La mente non c'entra niente. Per cui, se ci pensate, è emblematico che qui ci venga detto che la redenzione, la fede, non è una questione intellettuale, non è una questione di testa, è una questione di cuore, è una questione di sentimenti. La morte, esattamente come la vita, passa attraverso il ventre, passa attraverso la pancia. È nella pancia che avviene un concepimento, che si sviluppa la vita di un futuro uomo, di un nascituro, ed è attraverso la pancia, il fatto di colpire la pancia, che la vita se ne andrà. Anche qui la testa non c'entra niente. È una questione di liquidi vitali, come avrebbero detto appunto nel 400. Cos'ha ai piedi del letto quest'uomo? Ha una cassapanca, una cassa, un quasi forziere con una serratura molto importante. Dentro questa cassa, che sicuramente viene per abitudine tenuta chiusa a chiave, noi abbiamo delle monete d'oro dentro ad un sacco. e altri oggetti che dei grilli con la testa di topo e fattezze umane stanno iniziando a tirare fuori. Ed è intorno a questa cassa che noi abbiamo le mostruosità peggiori. Abbiamo un diavolo che ha in mano un cartiglio, una sorta di cambiale. Se notate, ha proprio corpo umano, ali scure che ricordano le ali di pipistrello e zampe di rana. Accanto a lui intravediamo una sorta di rospo con la parte posteriore e la coda di una razza, di un pesce di conseguenza. Rospo, rana, sono legati al fango e quindi sono legati a quegli animali che caddero dal cielo quando Dio cacciò Lucifero, lo dicevamo già in altre lezioni. Il topo è colui che vive in mezzo alla sporcizia, topo che abita normalmente all'interno di queste case, vero? La casa del 400 non è una casa asettica e disinfettata quanto le nostre. I topi sono presenti, se non negli spazi direttamente abitati, sicuramente nelle soffitte, nei solai che erano sempre di legno. Nelle dispense era normalissimo trovare e avere topi. Questo sarà tra l'altro, no, il vettore principale della peste nel 1400. Di conseguenza il topo, tutto sommato, non è un animale impressionante perché appartiene alla quotidianità, molto più di quanto non siano per noi oggi i gatti. Sono gli altri animali che ci parlano di qualcosa di viscido, di inquietante, di sporco. Questi ibridi di cui già tante volte abbiamo parlato e che, preparatevi, da oggi in poi vedremo sempre o quasi sempre in Bosch. Animali che diventeranno per lui a livello grafico quasi un'ossessione. Li troveremo ovunque e saranno quanto di più aberrante e mostruoso si sia mai avuto nella storia del grillo. Perché i grilli rinascimentali che noi conosciamo sono eleganti, sono graziosi, hanno zampe di cicogna, hanno teste realizzate con foglie di platano, sono bellissimi a vedersi. Non a caso hanno decorato tutte le dimore storiche europee, da Firenze a Venezia a Vienna, a Parigi, a Fontainebleau, cioè ovunque vi sia il Rinascimento c'è una grottesca e la grottesca è fatta con dei grilli. I grilli di Bosch invece sono proprio ripugnanti, sono grigi, sono marroni, sono verde marcio e sono sempre legati a qualche cosa di sporco e di viscido e di impressionante, di demoniaco. Non esistono grilli in Bosch che guardiamo con divertimento, non sono dei passatempi, sembrano proprio delle aberrazioni legate all'incubo più che al mondo di favola della reggia rinascimentale italiana, esportata poi in tutta Europa. Per cui queste mostruosità che stanno sotto la cassapanca, dentro la cassapanca, rappresentano il male, rappresentano l'oggetto per cui quest'uomo si danna, o perlomeno si è dannato per tutta la vita. La cassapanca dentro la quale lui ha nascosto i propri beni, dentro cui ha nascosto le proprie ricchezze. Ed è inevitabile che proprio intorno a questa cassapanca il male serpeggi, perché questo è il motivo per cui quest'uomo è in peccato mortale. L'avarizia, la necessità appunto di raccogliere. Chi è quest'uomo che vediamo in piedi contare il denaro, toccare il denaro? E qui abbiamo due letture possibili. La prima è che questo sia un servitore. Il padrone sta morendo, finalmente può aprire quella cassa e toccare ciò che sta all'interno. È un uomo saggio, questo servitore, porta in mano e legato alla cintura un rosario. Per cui è un uomo di fede, avvezzo alla preghiera, non è un sacerdote, non è un monaco. È un uomo saggio, vecchio, posato ad un bastone. Ed è vestito però di verde. Altra possibile lettura. L'uomo ai piedi di questo letto è l'avaro stesso. È un'immagine della vita di quest'uomo, che è invecchiato contando i propri beni, contando il proprio denaro. Pur essendo un uomo di preghiera, per cui assolutamente consapevole e conscio di essere in peccato mortale. E prega sperando con la preghiera di espiare il proprio peccato. Ma possono coesistere l'idea che sia in questo caso l'uomo di preghiera e che sul davanzale ci siano le armi, sì, e quindi sia anche un combattente? Sì. Perché sicuramente se ha combattuto da giovane. Non si combatte, vero, fino a tarda età, impossibile. A meno che non si sia costretti. Allora quelli sono, diciamo, i sovrani o sono i signori. Ma in tarda età non si va in battaglia, è impossibile reggere il peso anche solo delle armi e delle corazze. Potrebbe essere assolutamente la stessa persona, e ci tornerebbe un po' anche a giustificare la posizione alla nostra destra di tutte e tre queste scene, come se fosse una sorta di linea della vita, giovinezza, maturità, fine della vita. Guardate che era normale all'epoca dare simultaneamente più immagini nella medesima tavola, sulla medesima tavola. Questo è il retaggio del mondo medievale. È in un certo senso anche l'origine, se volete, dei fumetti. Il fatto di avere più immagini nella stessa superficie. Ma l'uomo che aveva detto non sembra più giovane. No, fate attenzione. Quello che è in testa, scuro, è un copricapo, è una cuffia da notte. Noi siamo abituati a dormire in case con riscaldamento, ragazzi, vero? La prima cosa che vi si ghiaccia a letto, l'unica cosa che non può stare sotto le coperte, è la testa. Di conseguenza si utilizzavano dei berretti da notte, tanto cari poi anche alla storia del teatro, alla pubblicità, no? Questi berrettini da notte col pompon laterale, col ciuffetto laterale, proprio per proteggersi dal freddo. Sono scuri solitamente questi berretti, quelli veri, quelli finti e carini da pigiamino, da bimbi, adesso sono bianchi, azzurrini, verdini, ma quelli veri erano in feltro, per cui erano scuri. Ed erano i copricapo che nessuno vedeva, per cui non erano necessariamente belli e ornati o quant'altro. Per cui quella che lui sta indossando è una cuffia di feltro scura. Quindi non lasciatevi ingannare da questa colorazione, non è più giovane, assolutamente. Quale lettura è corretta? Beh, entrambe, perché là dove non ci sia uno scritto di Bosch che ci spiega come è strutturata la tavola, procediamo sempre solo per ipotesi e qui non abbiamo nessuna pezza giustificativa. La cosa che mi preme farvi notare prima di andare oltre è la monotonia della tavolozza di quest'opera, perché se notate abbiamo tutta una gamma di rossi, andiamo dal rosso mattone al rosso acceso, il rosato, bruciato anche delle vesti, e poi i marroni, le varie gamme di marroni per appunto la porta, lo scheletro stesso, il pavimento, la cassa, i mostri. L'unica macchia di colore è questo verde marcio, che non è certo un verde acceso. Per cui una monotonia notevole nella gamma coloristica utilizzata in questa tavola, che ogni tanto vedremo ritornare. È quasi una peculiarità non tanto di Bosch, ma di questo tipo di pittura. La pittura del monito, la pittura legata al peccato, non ha una gamma di colori così brillante, così acceso, come invece le natività che abbiamo visto nelle lezioni precedenti. Ma il verde in quel caso ha una valenza negativa? Io direi proprio di sì, perché se quello non è il servitore, ma è un'immagine precedente di quest'avaro, il verde assolutamente ci racconta di una situazione negativa e potrebbe anche suggerirci il fatto che sia non solo un avaro, ma anche un usuraio. Ricordatevi che coloro che davano a prestito il denaro erano solo gli ebrei, nessun altro poteva farlo, e chi era così legato al denaro e aveva delle trattative ed era legato all'usura, per cui dava soldi a dei tassi vertiginosi, era in peccato mortale ed era, volente o nolente, di culto ebraico, perché nessun altro avrebbe potuto farlo. Era uno dei lavori imposti, una delle mansioni imposte proprio agli uomini di culto ebraico. Per cui potrebbe essere, sì, assolutamente. Altri dubbi? Passiamo oltre? Quando siete stanchi alzate una bandiera. Altra tavola, secondo la quale potrebbe esservi un nesso sempre con la nave dei folli, è quella che avete di fronte, che è dedicata alla cura della follia. Cura della follia. Si intitola proprio così. Cos'è questa cura della follia che, secondo gli storici, non è datata, venne realizzata tra il 1475 e il 1480 circa. È una delle opere bizzarre, ma ancora chiare, comprensibili, di Hieronymus Bosch. Se notate, la tavola è rettangolare, ma il soggetto è sviluppato pittoricamente in uno spazio circolare, dentro ad un tondo. Non è un gioco di copertina questo, o un fotomontaggio, è proprio così la tavola. La scritta in tedesco antico, così arzigogolata, così piena di nodi ed intrecci, porta una scritta che dice: giacché il mondo è così infido, mi vesto a lutto. Io mi fido della traduzione perché io il tedesco non lo conosco e tantomeno il tedesco antico. Dice: giacché il mondo è così infido, mi vesto a lutto. Per cui mi vesto di scuro, mi vesto in nero. Non abbiamo un nesso con alcun lutto interno. Abbiamo invece, fate attenzione, una lunghissima prospettiva su un paesaggio verde molto rilassante di campagna tedesca, colline azzurrate all'orizzonte. Pur avendo questo effetto quasi così etereo all'orizzonte su queste colline, noi distinguiamo tutta una serie di particolari fino ad un certo livello, frutteti, personaggi in mezzo al verde, micro personaggi in mezzo al verde. Ma questi non sono, se ci pensate, elementi nuovi. Vanno però osservati tutti con attenzione. Perché? Perché ciò che sembra banale in Bosch, banale non lo è mai. Ma facciamo quelli che vedono l'opera per la prima volta e quindi concentriamoci prima su quanto è appariscente. I personaggi in primo piano. Cosa vedete? Un dottore. Una monaca. Folle. Ma voi capite che è folle? Un poveretto con un buco in testa. E poi? Un ecclesiastico, un frate, sì. Poi la brocca. La brocca di cui già abbiamo parlato. Gli zoccoli. Cos'altro? Un libro sulla testa. Ma scusate, ma vi pare normale? Ah. Oh, finalmente l'avete visto! Cioè, è disarmante quello che non riuscite a vedere. Un imbuto sulla testa di un... Ma voi, scusate, ma voi vi fareste operare da uno che ha un imbuto in testa? Cioè, non so, l'imbuto in testa, questo cerusico, la monaca con il libro sulla testa, e poi c'è un'altra stranezza, coraggio, due. Il tipo ha la brocca attaccata al cerusico. Il cerusico porta una brocca da vino alla cintola. L'uomo è legato alla sedia. Beh, questo non è strano, lo stanno operando, è legato per forza. Ah, l'anestetico non esisteva, vero? Per cui si interviene così, ti legano per forza. Quella strana maschera di lato alla... No? Questo dice? Questi sono sopra. Questo? Oh, questo è una borsa da cerusico proprio. Una borsa da dottore, da legare alla vita. Una toppa sulla spalla del dottore. Ah no, è uno stemma. Posso dire che siete inquietanti? No, scusate, ma il tavolo non l'ha notato nessuno. E non ha forse una gamba centrale costituita da un accartocciamento di foglie? Non è mica pietra quella, sono verdi. Ah! E poi l'altra stranezza ve la dico io, perché dovreste avere un po' di storia del costume chiara nella memoria. L'operato è in mutande. Quelle braghe bianche, rosse che vedete sono di fatto dei mutandoni che non andavano mai fatti vedere in modo così eclatante. Nient'altro di strano? Certo. Altre stranezze? Ma sopra la testa. Il libro sulla testa di lei, ma scusate, non vi pare che questi due ecclesiastici siano tutto sommato abbastanza indifferenti a un uomo che sicuramente sta urlando come un pazzo perché gli stanno aprendo la testa? Cioè, è come se... lei soprattutto, no? Questo modo di fare come per dire, che sarà mai... Cioè, sembra una comare al mercato che chiacchiera con l'amica o una donna che aspetta che qualcuno torni a casa e ha già preparato tutto. C'è una netta indifferenza nei confronti di quello che sta accadendo a questo poveretto. Perché non siamo stupiti del fatto che la pazzia venga curata attraverso un'incisione nella testa? Perché in olandese antico c'era un modo di dire, e questo ce lo dicono solo i libri, vero, dell'epoca, che diceva che per determinare la saggezza o la follia di un uomo ci si dovesse basare sulle dimensioni del sasso che aveva dentro la testa. Per cui la pazzia era una sorta di sasso dentro la testa e quindi andava tolta dalla testa la pazzia, aprendo il cranio ed estraendone la pietra, il sasso. No? Guardate che rientra ancora nel nostro modo di dire, togliersi un'idea dalla testa. Toglitelo dalla testa, questo non lo potrai fare. Oppure hai un macigno al posto del cuore. È come se noi potessimo aprire il torace di qualcuno e tirar via il sasso che ha sul cuore e liberarlo del suo peso. Sono modi di dire. E per dire che uno era fuori di testa, era pazzo, si diceva ha un sasso nella testa. Più grande è questo sasso, più grande è la sua follia. Ecco che, poveretti, coloro che soffrivano di disturbi psichici, molto spesso si vedevano praticare delle incisioni nel cranio per far fuoriuscire questa pietra, questo sasso. Capite che ovviamente non curavano proprio niente. E ricordatevi poi che il cerusico, che è il chirurgo dell'epoca, era un barbiere, vero? Non era un medico. Poteva essere un barbiere o un macellaio, perché erano le persone molto avvezze all'utilizzo delle lame, dei coltelli. Il macellaio era quello che conosceva l'interiora meglio di chiunque altro, perché per mestiere apriva animali. E invece il barbiere era quello che usava le lame migliori, aveva le lame migliori. Guardate che il fatto che sia un barbiere ad operare arriva fino a metà 1800. Se voi andate a leggervi, ma tanto lo so che voi non le leggete queste cose, se voi andate a leggervi Le mie prigioni di Silvio Pellico, lì trovate per esempio che il barbiere andò in carcere a amputare una cancrena, perché era chi aveva i coltelli migliori. E certo, vero, non usava le bilama per fare la barba, usava la lama proprio. E la lama del barbiere è quanto di più affilato ci sia, in assoluto. Deve recidere il pelo della barba, per cui deve essere affilatissima. Per cui colui che sta operando è un cerusico, che non ha i panni del macellaio, non è un macellaio, e stranamente potrebbe anche non essere un barbiere, perché ha questa borsa e nella borsa ha degli attrezzi che sono proprio da medico. Ha uno scultatore. Questo è quello che sostituirà quell'oggetto meraviglioso che piace tanto ai bimbi per ascoltare le pulsazioni cardiache o il respiro. È una sorta di trombetta che si posava all'orecchio e si posava al cuore per sentire le palpitazioni. È sorella stretta della trombetta per ascoltare. Ma anche quella, secondo me, voi non l'avete mai vista se non nei cartoni animati. un oggetto che ricorda proprio un padiglione che veniva posato all'orecchio e che aiutava ad ascoltare meglio. È il principio del gramofono, al contrario, no? Quella è proprio la campana che fa fuoriuscire, è l'antenata della cassa stereofonica. Anche il fatto che abbia una caraffa alla cintola non mi meraviglia più di tanto, perché se sta operando, se sta intervenendo, avrà necessità di o intingere nell'alcol e quindi in un superalcolico la lama, figuratevi, o avrà necessità di acqua o ha avuto necessità di ubriacarlo. L'unico modo per soffrire di meno era quello di essere ubriachi, e questo l'avete visto sicuramente in tutti i film western della storia. Là dove si deve intervenire si ubriaca perché non ci sono anestetici. Porta sul cappuccio, sul copricapo, uno stemma di appartenenza, e qui è dura riuscire a sapere a quale delle congregazioni appartenesse. Poteva anche essere appunto la congregazione degli speziali. I farmacisti. L'imbuto in testa lo troveremo in molte altre opere. L'imbuto in testa solitamente è indice di follia. In pratica è come se noi avessimo un folle che sta operando un altro folle. E forse il più matto dei due è quello che sta operando. Il folle, poveretto, l'hanno denudato, anche se voi non ve ne rendete conto, ma quest'uomo è nudo. Traduco, è in mutande e ha un sottogiacca. La camicia che vedete non è una camicia, è ciò che si porta sotto la camicia. E ce lo dice proprio come è cucita, come è chiusa, e anche da questi laccetti che ha e nei fori che ha nelle zone inferiori, che erano dei fori dentro i quali si passavano dei lacci di cuoio e che venivano fissate alle mutande, alle bracche, in modo da avere una sorta di tuta. Non esistevano gli elastici, vero? Di conseguenza tutto andava annodato. Per capirci, pensate un po', quei laccetti sono gli antenati delle guêpières, delle giarrettiere, i ganci per tenere le calze. Ha un unico dettaglio questo poveretto, che la pazzia lo sta lasciando, sta proprio uscendo dall'incisione, ma non è una pietra, è un fiore. Come, non so, che questa pazzia non fosse un macigno, ma fosse una cosa meravigliosa, fosse un elemento bello di quest'uomo, un elemento capace di sbocciare, di fiorire uscendo dalla sua testa, come se fosse un seme. L'ecclesiastico, stranamente in Bosch, non ha nulla di anomalo. Dico stranamente perché molte delle tavole di Bosch ci danno una serie di elementi anticlericali. Questo è un monaco, probabilmente un benedettino. Sì, un benedettino. La caraffa che porta in mano non è una stranezza, probabilmente è un contenitore per l'olio degli infermi. L'olio che si dà all'estrema unzione, nell'estrema unzione, ma che si dà anche proprio ai malati gravissimi. Quindi potrebbe averlo benedetto prima di questo intervento. Sul tavolo abbiamo un fiore appassito e un altro fiore. Questo ci fa pensare che siano già stati tolti altri fiori dalla testa di quest'uomo. Ecco che forse allora il piedistallo di questo tavolo ha un suo motivo d'essere. E questa che ci sembra essere una monaca potrebbe essere, considerato il testo che ha in testa, che tra l'altro è un testo preziosissimo, perché è un tipo di vitello particolare la copertina, e tra l'altro è tinta di rosso, ancora oggi questi sono testi considerati molto molto preziosi, ha una bindella in oro, una chiusura in oro. Secondo alcuni storici è la saviezza, l'intelligenza, la normalità. Ecco perché ha il libro in testa, ecco perché è lì che aspetta. Sta aspettando che la follia se ne vada in modo da poter ritornare dentro la testa di quest'uomo. Ecco il perché del libro. E molto probabilmente non è una monaca, è una donna dell'epoca. Quello che vedete è un copricapo che poi resta nell'abbigliamento monacale femminile, perché è un abito del 1300. L'ordine delle Clarisse, per cui l'ordine di Santa Chiara, ancora oggi veste in questo modo, ma semplicemente perché nel 1300 il copricapo femminile era questo. Come nella zona di Campania. Esatto, esattamente. E guardate un po', andiamo a vedere ciò che non abbiamo ancora visto. La sedia su cui siede quest'uomo. Guardate quanto è importante questo scranno, ha una struttura quasi architettonica, no? Se ci pensate, questo l'abbiamo già visto, sia in Van Eyck che in Camping. Per cui è una sedia importante, ben finita, con i pomelli. Non è una bizzarria vedere gli zoccoli, sono le calzature tipiche dell'epoca e sono le calzature di colui che stanno operando, per cui è stato gli hanno tolto anche le scarpe per evitare che si ferisca, probabilmente che si faccia del male. Ma la cosa che a colpo d'occhio sfugge è quello che abbiamo nella campagna retrostante. Guardate, dalla parte del cerusico, per cui dalla parte di questo medico, abbiamo una forca, una sorta di palo per l'impiccagione, cioè scusate, un palo per una crocifissione e una forca per due impiccagioni. Abbiamo animali al pascolo, cavalli e conigli. E all'orizzonte abbiamo una sorta di fontana, realizzata quasi con delle lumeggiature. La forca non è, sapete probabilmente, sinonimo di morte, di futura morte, di rientra nella normalità fuori città. Cioè la forca probabilmente era qualche cosa di normale. Si moriva per impiccagione in seguito di tutta una serie di mancanze. L'impiccagione era una delle pene alle quali così veniva sottoposti a seconda del reato che si compiva. Per cui probabilmente non è altro che l'orizzonte di una campagna. Certo, la forca a noi lascia un po' così perplessi, ma rientra, vi ripeto, nella quotidianità dell'epoca. Questo non voglio dire che fuori da ogni città si impiccasse gente ogni giorno, ma rientrava nelle varie punizioni. C'era la carcerazione, c'era l'esposizione, la gogna e c'era anche appunto la forca per l'impiccagione. Dipende, dipendeva dalle situazioni. Diciamo che l'ordinaria legge non avveniva sulla pubblica piazza, non questa perlomeno, non l'impiccagione. Sulla pubblica piazza hai le esecuzioni esemplari, quelle che devono proprio essere monito per la cittadinanza. Uno che ha rubato, che ha ucciso un'altra persona durante un furto, rientra nella routine e quindi non hai necessità di esporlo alla gogna. Se invece avesse, che so, fatto altro o avesse bestemmiato, allora sì, sarebbe stato punito sulla pubblica piazza, perché era qualcosa di molto grave anche a livello sociale. E quindi la punizione, che non era un'impiccagione, l'impiccagione è una cosa semplice. Lo prendi, lo uccidi e lì tutto finisce. Le cose esemplari erano cose lente, molto lunghe, che duravano più giorni e che te le ricordavi per tutta la vita, da vedere, figuriamoci da subire. Per cui c'era, diciamo, questa notevole differenza. Vi ripeto, secondo alcuni storici questa tavola sarebbe facente parte del trittico o del dittico, appunto, con la nave dei folli. Forse avrebbe più senso questa. Nave dei folli, cura della follia. E una follia che non è fatta di follia, ma è fatta di fiori, che possono essere anche allucinogeni, vero? Perché i fiori allucinogeni li conoscevano, non è che non li conoscessero. Per cui il fiore può essere un elemento positivo, ma può anche essere appunto un elemento di allucinazione, di uscita dalla normalità, dalla logica, appunto, dal raziocinio. E ora io vorrei con voi fare un passo indietro. Ce la fate? Avete bisogno di una pausa ora o aspettiamo? Non ho capito. Chi vuole fermarsi adesso? Una persona sola, due. Andiamo avanti. Facciamo un passo indietro, ritorniamo per un istante, giusto per capirci, a Campin. E vediamo, non serve, e vediamo insieme di nuovo, se vi ricordate, quel quadro. No. Eccolo qui. Il dettaglio della pala di Verle. L'esterno, se vi ricordate, no? Dove abbiamo Santa Barbara in preghiera. Sulla cappa del camino, ve l'avevo detto che ci saremmo ritornati, noi abbiamo un dettaglio interessante. Noi abbiamo appunto questa bottiglia che contiene un liquido di cui abbiamo parlato, la trasparenza, e abbiamo questa immagine che proietta un'ombra, facendoci chiaramente capire che abbiamo una fonte luminosa che colpisce, diciamo, da questa zona, per cui da un laterale semifrontale, quella parete, e quindi la luce che proietta quel tipo di ombra non arriva da quella finestra. È una delle tipiche situazioni fiamminghe, dove io devo sempre fare attenzione a dove cadono le ombre per capire da dove arrivi la luce. Non è sufficiente una finestra per giustificare la situazione. Io non posso avere la luce che mi entra da qui e l'ombra che mi cade in questo modo, vero? Questa bottiglia non potrebbe avere luce se prendesse luce da questa finestra. Io devo immaginare una fonte luminosa che arrivi da qua. E qui non è nemmeno completamente laterale, è semifrontale. Perché mi interessa? Perché ci spiega una serie di cose. Eccola qui, vedete? Noi abbiamo un'immagine non di una croce, ma di una trinità. Noi abbiamo l'immagine del Padre che regge la croce del Figlio, e sulla croce del Figlio, qui, uno deve proprio andare a cercarsela, abbiamo anche lo Spirito Santo, una colomba. Siamo nel 1438, la Trinità è dogma di fede da 400 anni e Dio viene raffigurato senza nessun problema. Dio, quando viene rappresentato, è un uomo sempre anziano. Oh, dico che viene rappresentato senza nessun problema, per chi tra voi non abbia seguito puntate medievali, perché nell'Alto Medioevo Dio non viene mai rappresentato, no? Dicevamo sempre eventualmente della presenza della mano destra, ma mai di Dio. 1438, Dio è visibile. È un uomo anziano, saggio e quasi sempre coronato, è un re. Dio, il re dei re, padre del re dei re. Nell'albero di potenza sarebbe un imperatore, colui che sta sopra i re. Il Figlio è crocefisso e lo Spirito Santo sta tra il Padre e il Figlio, perché lo dice il credo, l'atto di fede. Dice che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato. Se procede dal Padre e dal Figlio, sta tra il Padre e il Figlio, è come se fosse in mezzo. Ricordatevi che siamo ancora in una fase storica in cui i testi vengono presi alla lettera. E quindi se procede dal Padre al Figlio, vuol dire che sta in mezzo tra il Padre e il Figlio. Ecco che là dove sia presente la Trinità, lo Spirito Santo non sta sopra il Padre, ma sta davanti al Padre e sopra il Figlio. Sta in mezzo. Ecco perché la colomba è qui e non è posizionata lateralmente o su una spalla o sulla testa di Dio. Nulla può stare sulla testa di Dio, vero? Nemmeno nella tradizione antica qualcosa può stare sulla testa di Dio. C'è solo un elemento che può stare sopra la testa di Dio, e questo risale alla Grecia arcaica, ed è il profumo dei fiori. Nient'altro può stare sopra la testa di Dio, solo il profumo dei fiori. Per cui lo Spirito Santo sta in mezzo, vi ripeto, tra il Padre e il Figlio. Perché mi interessa questo? Perché questo è un piccolo dettaglio che uno deve proprio andare a cercarsi, perché non è l'elemento che balza all'occhio in quello che è lo sportello della pala di Verl, cioè è un elemento che sta all'interno dell'opera, ma non è l'elemento principale. Non mi colpisce quanto, per esempio, che so, l'acquamanile, cioè la caraffa per lavarsi le mani. Mi interessa perché? Perché Campin o Campin realizza in modo interessante altre opere. Una di queste, l'ha realizzata qualche anno prima, 4-5 anni prima, ed è un monocromo. Per cui ritorniamo a tutto il discorso che ci siamo fatti sulle statue, la capacità della pittura di realizzare la scultura e non il contrario. È un monocromo straordinario e preziosissimo. Ripeto, siamo nei primi anni del 1430. Perché dico che è preziosissimo? Perché è uno dei primissimi, se non il primo, esempio di ombra riverberata, di ombra vibrante, di ombra doppia. E lo vedete proprio qui. Se notate, l'ombra è doppia. E questo ci parla di uno studio sulle ombre strepitoso per l'epoca, proprio strepitoso. E se posso dire, da medievalista, ci dice anche di un'aderenza incredibilmente protestante. Dio non può avere ombra, Dio è puro spirito. Se proietta ombra, io devo per forza attribuirgli un'entità fisica. Lo spirito non ha ombra. L'arroganza di realizzare una statua di Dio che proietti un'ombra, nel senso positivo del termine, è protestante. È il protestantesimo che fa scendere di livello Dio. E questa scesa di livello porta Dio ad incontrare gli uomini direttamente. È il protestantesimo che tradurrà in lingua corrente le sacre scritture, che fino a quel momento erano state rigorosamente in greco e in latino. È Lutero che traduce la Bibbia in lingua tedesca. Fino a quel momento nessuno mai avrebbe potuto leggere un testo sacro, non essendo un ecclesiastico e non conoscendo perfettamente latino o greco. Per cui questo modo di procedere è tipico del territorio delle Fiandre, un territorio misto, no? Un territorio dove anche il cattolicesimo, per forza di cose, risente di un nuovo modo di concepire la fede, che è molto più a livello umano, molto più praticabile proprio dalla gente comune, portato proprio dalla ventata protestante. I canti in lingua tedesca saranno frutto del mondo protestante, anche se poi molti cattolici li comporranno, o viceversa, protestanti comporranno messe cattoliche. Non ho capito, cioè un cattolico non avrebbe dipinto l'ombra della statua? No. No. No. Anche se una statua? Non avrebbe fatto Dio come statua. L'avrebbe piuttosto fatto, come fa Masaccio, come una grande entità paterna, umana, ma fuori scala, straordinariamente grande, perché avvolge tutto. È l'idea protestante che ti dà un Dio uomo, un Dio col quale puoi parlare direttamente senza intermediari. E a livello teologico sarà quello che li porterà, per esempio, a non avere un confessore, ci si confessa da sé. Hai un rapporto personale diretto con Dio, non ti serve un sacerdote. Questo il cattolicesimo non lo permetterebbe, direi proprio di no. Cos'ha di particolare? Guardate un po'. Qui, rispetto a quello che farà qualche anno più tardi, perché quello che abbiamo visto sopra la cappa del camino segue di qualche anno, manca la croce. Sarebbe stato un problema, no, dipingerlo con la croce grande. Sarebbe stato un ingombro e una costruzione prospettica assai complessa da realizzare. Avrebbe nascosto l'umanità di Dio Padre, perché qui è un padre che regge con le proprie mani il cadavere del figlio. Per cui, se ci pensate, è anche un'immagine di incredibile tenerezza. È il gesto di un padre rassegnato che cerca di sostenere un figlio che è già morto, come se fosse un figlio ancora vivo che sta cadendo, che sta inciampando. E questo tipo di tenerezza, questo tipo di umanità, vi ripeto, appartiene proprio all'epoca al pensiero protestante, l'idea di un Dio infinitamente misericordioso, non di punizione, che invece è ben radicato nel mondo cattolico all'epoca, soprattutto quel mondo cattolico rappresentato nelle Fiandre dai domenicani. E se notate, e qui probabilmente per una questione di resa, la colomba, che rappresenta lo Spirito Santo che procede dal Padre e dal Figlio, si è posata sulla spalla del Cristo, come se il Cristo fosse il ramo di un albero. E quindi probabilmente, ma prendetela come una mia lettura, lo Spirito Santo si posa sul Cristo come se il Cristo fosse memoria della croce, perché l'albero di Cristo è la croce. E se ci pensate, anche questo fa un po' tenerezza, no? Una colomba che si posa sulla spalla di un uomo. Per cui rientra in una situazione estremamente sentimentale. E non abbiamo mai parlato di situazioni sentimentali fino adesso nella pittura fiamminga, che è una pittura di dettaglio, di attenzione, ma non di calore e di cuore. Per quello ci servono gli italiani, è inevitabile, e anche non tutti. Questo Cristo morto, anatomicamente studiato nei dettagli, tiene una mano sulla ferita del costato, una ferita che non sanguina più perché è un cadavere, non perde più sangue, come a enfatizzare il martirio, il calvario. Le braccia, se notate, come spesso accade nella crocifissione, sono sproporzionate, sono più lunghe di quanto dovrebbero essere. Se ricordate, queste braccia solitamente, quando sono stese sulla croce, vengono sempre realizzate più lunghe, proprio per dare quest'idea poi, no, di capacità di abbraccio nei confronti dell'umanità. Un elemento particolare che ci parla di morte è la ciocca di capelli che gli esce dalla corona di spine. Che se notate, eccola qui, segue proprio l'andamento della spalla e quindi è un disordine parziale. Ma come già abbiamo detto tante volte, i capelli sciolti, disordinati, appartengono all'intimità in quest'epoca. Per cui anche quella ciocca che esce da una capigliatura, se notate, perfetta sulla testa di questo Cristo, denota un rapporto intimo e stretto con il Padre che lo sta sorreggendo. E per essere un olio fiammingo, questo volto è incredibilmente espressivo, ha le rughe, ha le borse sotto gli occhi, ha la parte centrale della fronte corrugata, sembra quasi avere un solco. Non è il classico Cristo perfetto che noi abbiamo lasciato nei crocefissi del 1100. E non è neanche il Cristo di Giotto, che nonostante tutto, se non fosse per la colorazione verdognola, sembrerebbe un Cristo sereno. È la postura del corpo che nel crocifisso di Giotto ci dà l'idea della morte e della sofferenza, ma non è il volto. Non è un Cristo pieno di rughe. E la corona di spine è incredibilmente simile ad una treccia femminile, no? Proprio tipica dell'ornato, della capigliatura di questo periodo. Per cui questa acconciatura, pur essendo un'acconciatura di calvario, è estremamente elegante, estremamente ordinata, se non fosse appunto per quella ciocca di capelli che esce di lato. Le mani del padre, che sono studiate in modo straordinario, non stanno facendo alcuna fatica, se notate, perché non abbiamo grinze nel corpo. È come se fosse nell'atto di reggere un corpo, ma questo corpo non avesse peso. E questo è straordinario ed è tipicamente fiammingo. E alcuni registi che hanno lavorato sull'arte fiamminga sono stati così bravi da darci molte volte delle situazioni di peso in cui il peso non esiste. Ma quella è un'altra storia. Il corpo invece del peso, il peso del corpo, scusate, noi lo vediamo nel pollice e nell'indice, nel medio del Cristo, perché questa grinza, no, che ci aiuta a vedere meglio, questa incredibile ferita asciutta, completamente asciutta, ci dicono che questo costato posa sulla mano, altrimenti non avremmo queste grinze. Per cui Cristo percepisce il proprio peso anche da morto, ma non lo percepisce Dio Padre, che probabilmente, essendo un'entità infinita, ha delle dinamiche che esulano dalla gravità della terra. E Dio Padre ha un'espressione estremamente seria, quasi rassegnata. Teoricamente, per la cultura cattolica, Dio non può provare dolore temporaneo, perché Dio è eterno e in quanto eternità conosce il dolore, ma non lo prova, non ha sentimenti umani, li conosce perché li ha creati, ma non gli appartengono. Qui invece, in una sfera di umanizzazione della divinità, Dio ha una serietà legata quasi appunto alla rassegnazione di una perdita, la morte del figlio. Ma questo Dio Padre, con le rughe, perché comunque lui è il tempo, anzi lui è oltre il tempo, e quindi questa enorme barba, anche qui, se notate, non meravigliosamente ordinata, divisa in ciocche, precisa, è un elemento di saggezza e di regalità, perché guardate che il copricapo che indossa è un copricapo vescovile, corona, e quindi ci parla di regalità, è un sovrano, e questa, se non ricordo male, è una corona principesca, proprio per come è fatta, non è una corona reale. E il copricapo è quello di un vescovo. Area geografica, solitamente i vescovi sono principi. Ricordatevi che anche Trento era retta da un principe vescovo. Perché dico che è un copricapo vescovile e non papale, per esempio, no? Il Papa ha indossato una sorta di copricapo come questo fino a Paolo VI. Perché se fosse papale avrebbe tre corone, o perlomeno sarebbe gemmata per tre livelli, per cui avremmo tre sovrapposizioni, o perlomeno due corone e una fascia gemmata. E questo è strano, che Dio indossi un copricapo da principe vescovo e non da papa è strano, ma noi non sappiamo da chi venne commissionata. Fosse stata per un vescovo, capite che questa era la chicca perfetta, perché era un modo per rendere omaggio a chi commissionò l'opera. Le dimensioni. Qui siamo su una tavola che è quasi a misura reale. Dimmi. Io non ho capito, questa scultura di divinità esisteva o no? Penso di no. E il fatto che il Cristo non abbia peso non può essere anche un espediente per fare capire che è una struttura, nel senso che se avesse peso anche per Dio stesso noi non lo percepiremmo come una struttura. Però se io vado a vedermi le sculture dell'epoca o quelle poco seguenti, compreso anche Michelangelo, una delle preoccupazioni maggiori che ha fino alla fine, fino alla Pietà Rondanini, è quella di darmi la percezione, esatto, di un corpo vero che però pesa. Quella è una scultura vera. In ogni caso non c'è un peso sulle mani reale, se ci pensi. No. Lo costruisce lo scultore, che dà l'impressione di una verità più vera del vero. E certo, in ogni caso qui è tutto finto, perché è dipinto, per cui il peso non ce l'ha niente in realtà, no? Certo, poi dobbiamo capire che è una scultura, quindi comunque ci sono gli espedienti per farlo in modo tale che non sembri semplicemente un... Certo. Adesso un bianco e nero. Assolutamente, come no, può essere. Finché non abbiamo uno scritto da parte di chi ha dipinto, sul quale io comunque dubiterei, perché dei pittori non mi fido mai, di quello che scrivono in modo particolare, andiamo sempre per ipotesi. Sono dei dettagli però talmente profondi che mi fanno capire che chi ha dipinto qui ci ha pensato e ha fatto delle scelte e non ha dipinto l'ovvietà. Perché è ovvio che una cosa come questa l'ha fatta avendo dei modelli. Non dipingi così a memoria, non perlomeno nel 1400. Hai un modello, e il modello sicuramente regge qualche cosa, no? Perché... è anche strana la ciocca di capelli fuori, perché una scultura non può averla così veritiera, cioè dovrebbe essere più rigido, dovrebbe essere più... Però ricordati che è una scultura che viene dipinta. Per dimostrare che la pittura è superiore alla scultura. E quindi, vabbè, certo, in scultura sarebbe ben complicato. Ci sono scultori tra voi? Nessuno fa scultura? Nessuno. Oh, che tristezza. Ma insomma, risolverla in scultura sarebbe un bel problema, una ciocca di capelli che fuoriesce così. Puoi farlo dipingendo, scolpendo, è bello complicato. Le dimensioni però, se notate, ci dicono che questo Dio Padre è più possente, cioè è più grosso, è ben piantato rispetto al corpo del Cristo. Questo probabilmente non per una questione fisica, ma per una questione di panneggio dell'abito. Questo manto così grande, così ricco sulle spalle, ce lo fa sembrare importante, potente. E pensate quanto questo Cristo anticipa la Pietà Vaticana di Michelangelo. Perché se noi lo prendiamo e lo giriamo, assomiglia in modo straordinario, o in modo molto importante, al corpo del Cristo della Pietà di Michelangelo, quella che tutti chiamiamo la Pietà. Il nimbo, per cui questo panno che ha, non il nimbo, scusate, questo panno che ha legato, questo perizoma che ha legato appunto all'inguine e anche la testa reclinata, le braccia, ricordano moltissimo gli studi che Michelangelo realizza per la Pietà. E finezza delle finezze, i piedi di Dio Padre sono calzati, d'altra parte è un uomo vestito di tutto punto, il Cristo non solo ha piedi nudi, ma se notate le dita di questi piedi hanno delle deformità tipiche di un rigor mortis, cioè di queste dita di piedi che iniziano a irrigidirsi e hanno quindi una posizione innaturale. Tra l'altro piedi, vero che sono stati crocefisse, e intravediamo sulla pianta di un piede e sul dorso dell'altro i fori della crocifissione. Il tema trinitario verrà poi ripreso sempre da Campin in una tavola oggi di proprietà del Museo Russo di Stato, con una cornice probabilmente dipinta posteriormente, dipinta sulla tavola direttamente. Se notate, l'idea è la stessa. Qui siamo però a colori, siamo qualche anno dopo, per cui siamo, diciamo, anche dopo la Pala Verle, e Dio Padre ci viene dato seduto. L'effetto cambia immediatamente perché la policromia stravolge la situazione. Un Dio Padre che è in trono, ed è un trono sontuoso, con tanto di baldacchino, vi prego, vero, non è una tenda da campo, è un baldacchino imperiale. Il copricapo è ancora un copricapo vescovile, se notate, in oro, ma è comunque un copricapo vescovile, ha una sola corona. Questo Dio Padre è incredibilmente più rigido di quello che abbiamo appena lasciato. E se posso dire la mia, potrebbe anche non essere di Campi in questa tavola. Potrebbe essere un'opera ispirata a Campin. Sapete che sono tavole non firmate, per cui sono tutte attribuzioni. Come si chiama? Questa si chiama Trinità, semplicemente, di Campin, attribuita perlomeno a Campin. La colomba ha le ali aperte, come se si stesse posando in quell'istante sul Cristo, o se fosse in volo tra Dio e il Cristo. E non abbiamo la stessa cura, se notate, nel corpo e nel volto del Cristo, assolutamente. Secondo me non è la stessa mano. Questa è una mano meno esperta, ma vero. Le attribuzioni sono sempre cosa molto delicata e molto pilotata. L'intreccio, appunto, delle spine... pilotata per forza, vero? Possedere un Campin originale o una copia di Campin, per quanto fiamminga dell'epoca, non è economicamente la stessa cosa. La corona di spine intrecciata è la stessa, ma il volto ha una cura completamente diversa. Non abbiamo tutta quell'attenzione, anche qui ci sono delle rughe, non abbiamo però l'attenzione che abbiamo nel monocromo, assolutamente. Il braccio è un altro, se notate è l'altro, il sinistro, il destro qui era il sinistro, qui probabilmente per una questione di equilibrio nella spazialità, per riempire lo spazio dentro il trono, e la meravigliosa cura dedicata ai piedi qui manca, quasi completamente. Molto interessante invece è il trono, quello sì, un trono marmoreo, se notate, molto grande, proprio una cattedra. Ricordatevi che cattedra non è un tavolo, la cattedra è una sedia. Una sedia sulla quale solitamente sedeva il vescovo. E proprio per questo motivo le chiese in cui risiede il vescovo si chiamano cattedrali. Perché all'interno di quella chiesa vi era la cattedra del vescovo, che era un trono, era una sedia importante. I docenti di rango universitario sono cattedratici, non perché hanno il tavolo della cattedra, ma perché siedono in cattedra e quindi siedono su una sedia cattedratica che gli dà così un'aura prestigiosa. E di conseguenza il tavolo del docente si chiama cattedra, ma la vera cattedra sarebbe la sedia. Per cui quando vi chiederò di passarmi una cattedra, pensate bene a cosa darmi in sede d'esame. Mi vedo proprio. Fine. Cos'è di particolare questa cattedra? Che ci dà segni di resurrezione. Vedrete dove? Gli animali. Abbiamo una leonessa, e nella tradizione medievale la leonessa è sempre simbolo di resurrezione, perché nella tradizione antica si riteneva che i leoncini nascessero morti perché hanno gli occhi chiusi, e poiché li aprono 3 giorni dopo la nascita, si diceva che resuscitassero. Quindi la leonessa rappresenta sempre la resurrezione per questo motivo. E dall'altra parte abbiamo un'immagine che diventerà estremamente ricorrente dal 1300 in poi, che è quella del pellicano. Un uccello che in caso di disperazione, in caso di assenza di cibo per i propri piccoli, si becca il petto e consente ai piccoli di nutrirsi del proprio sangue. Diventa elemento cristologico, e lo troviamo proprio nell'iconografia legata alla resurrezione dal fine 1200, inizi 1300 in poi. Perché Cristo, come il pellicano, sacrificò se stesso per i propri figli. E nell'iconografia spesso i piccoli sono 3, per cui ricorda anche l'elemento trinitario, diciamo così. Per cui il trono di Dio ci dà 2 animali simbolo di resurrezione. Questa opera poi venne realizzata un'altra volta ancora, vediamo se è questa, no, questa è la stessa, venne realizzata un'altra volta ancora sempre con la stessa impostazione. Volevo però farvi vedere un'altra cosa a proposito di questo elemento di Dio Padre che regge il Figlio e tra loro è presente lo Spirito Santo. Questa è una miniatura di un codice molto prezioso e interessante, redatto tra il 1163 e il 1174. Siamo in territorio tedesco. E questo testo, che è un testo visionario, proprio di una serie di visioni, di sogni premonitori, avuti da una monaca, una donna, un'intellettuale tra l'altro raffinatissima, coltissima, che fu Hildegarda di Bilgen, una badessa, divenne proprio responsabile di un monastero molto importante, legata a doppio filo all'imperatore. Questa donna divenne, nella appunto metà del 1100, anche una delle grandi consigliere imperiali, proprio perché era una veggente, una donna che sapeva vedere oltre il tempo. Una donna, forse la prima donna dell'epoca medievale, che possa scrivere, scrive tutta una serie di testi, dei sogni che ha, viene riconosciuta e santificata che è ancora in vita, proprio riconosciuta come donna di straordinarie capacità. E pensate, questa donna coltissima, vi ripeto, ci lascia anche un testo preziosissimo sul legame, sul nesso magico esistente tra le piante e la farmacopea, ma anche tra la farmacopea e le pietre preziose. La farmacopea sono quelle medicine che vengono fatte con le piante medicinali, per cui fatte direttamente con le erbe. Oggi noi le chiameremo medicine non omeopatiche, ma quasi, ecco. È l'antenata dell'omeopatia. Lei era una grande esperta di piante officinali, per cui di piante curative, che faceva tra l'altro coltivare all'interno del monastero che dirigeva, ed era un'incredibile esperta anche di pietre. Non mi ricordo come si chiami il modo di intervenire in medicina attraverso le pietre, ha un termine particolare che mi sfugge. Lei redige proprio un testo, scrive un testo sul nesso tra le pietre e i mali del corpo. Per cui, non so, lo zaffiro cura la determinata cosa, il corallo può curare quest'altra cosa. Se voi portate al collo la pietra di luna per, che so, 18 anni, vi cura o vi tiene lontani dai reumatismi, per esempio. Ed è interessante perché lei questa analisi la farà partendo ovviamente dall'Apocalisse di Giovanni. E quindi è uno dei testi più preziosi che abbiamo sull'interpretazione medica, medicamentosa, delle piante e delle pietre preziose. Vi ripeto, è una donna, sa leggere, sa scrivere, già questa è una cosa strepitosa per l'epoca, ma addirittura scrive libri, e sono libri che vengono commissionati poi al monastero, quindi vengono divulgati. Chi compra questi testi solitamente è un aristocratico di altissimo rango che guarda a lei proprio come una donna illuminata, come una donna che possa avere veramente dei poteri superiori. E pensate che verrà protetta direttamente dall'arcivescovo di Magonza e successivamente in prima persona dall'imperatore Federico Barbarossa. Per cui una donna potentissima. Il Liber Divinorum Operum, per cui tradotto, vero, semplificandoci la vita, il libro sulle sue visioni mistiche, è miniato interamente. Quello che avete di fronte è uno degli interventi di miniatura interessanti all'interno di questo testo. È una pagina completamente in oro, dorata, questo che vedete marrone è oro zecchino, che ci dà un'immagine trinitaria. E guardate un po', a mo' di matrioska ci dà Dio Padre nella testa dello Spirito Santo, che è questo enorme anello di fuoco. Se notate, è anche antropomorfo, perché questo Spirito Santo ha la testa, le braccia, le mani, a destra e a sinistra, e anche i piedi. Dio invece, che è infinita grandezza, siamo nel 1163, vero? È già osé il fatto che ci rappresenti Dio, la testa di Dio, è talmente grande che non può essere contenuto dalla pagina. Per cui è lo spazio infinito, è l'oro. Guardate che l'oro in questo caso rappresenta proprio lo spazio cosmico, non è la doratura della pagina, è il cosmo, che contiene lo Spirito Santo sotto forma di lingue di fuoco, che contiene il creato, e il creato inevitabilmente ha in sé anche gli elementi negativi, i venti, tutti questi raggi che vedete bianchi sono i venti, le acque, queste ondine circolari, la terra, che è la parte bianca che vedete, il sole, che è questo cerchio che sta sotto Cristo, e quest'immagine può essere letta come Cristo, ma deve essere letta soprattutto come l'uomo, che è stato creato, che appartiene al creato. Di conseguenza noi abbiamo Dio Padre, lo Spirito Santo e la personificazione fisica di Cristo nella figura umana. Per cui Campin o Campin non ha inventato niente con questa struttura, con quest'idea, perché il De Garda già aveva inventato una cosa analoga, certo non uguale, ma l'idea di una deesis, cioè di un ordine di importanza, c'era già. Naturalmente, vero? E sottolineo naturalmente, questo modo di lavorare, di concepire lo spazio, è figlia della proporzione aurea. Questo dovrebbe portarvi a così intravedere una somiglianza con il famoso uomo vitruviano. Non perché sia la genialità delle genialità, l'uomo vitruviano non è altro che la figura umana costruita secondo la proporzione aurea, per cui non è un'invenzione, è una ulteriore codificazione. Tutte le statue della Grecia classica nascono nello stesso modo, fino a oggi, chi voglia ovviamente praticare la scultura o la pittura secondo i canoni del disegno che nasce dalla proporzione aurea, lavora per triangoli, cerchi, punti e proporzioni, 1 a 5 sempre, no? È la proporzione appunto legata alla struttura matematica. Per cui diciamo un precedente c'è. Non dimenticatevi una cosa, che in tutto ciò il De Garda ritrae se stessa, o il miniaturista ritrae il De Garda, in un angolo in basso, seduta su uno scranno, dentro la propria stanza, dobbiamo sempre leggere attraverso questi disegni, queste opere, per cui questa sorta di edicola che ha sulla testa rappresenta una stanza chiusa, probabilmente la sua stanza o lo scriptorium del monastero, nell'atto di scrivere su un codex, su un libro. Cioè, questo ci dice che il De Garda ha sognato o ha visto in una sua visione mistica il creato in questo modo e lo ha scritto. Per cui lei guarda ciò che ha sognato e ce lo sta scrivendo. Cercate di ricordarvi in questa impostazione, perché sarà indispensabile per capire il Bosch che vedremo tra una mezz'oretta, perché avrà lo stesso tipo di impianto. Ma questa poi magari la teniamo aperta e ve la faccio vedere. Prima di scappare verso il caffè, perché l'occhio l'ho visto da caffè, vediamo che cosa contemporaneamente accade in Italia. 1426-1428, Firenze, chiesa di Santa Maria Novella, Masaccio. Oggi questo affresco lo troviamo nella parte centrale della chiesa, sul lato sinistro, entrando dall'ingresso principale di Santa Maria Novella, in un posto spiazzante, perché non c'entra niente, non è un altare, non è una cappella, è la parte centrale del muro del braccio lungo della navata. E anche su questo si sono scritte molte cose. Il fatto che sia stato commissionato dall'allora abate della chiesa, per cui il monaco più importante, Santa Maria Novella è una chiesa domenicana, per cui da sempre gestita dall'ordine domenicano. C'è una cosa però che forse è stata tralasciata, che l'attuale posizione di Santa Maria Novella non torna con i conti. Perché? Perché l'abside di Santa Maria Novella è a sud e non ci siamo. Perché fino a prova contraria tutte le absidi delle chiese, fino al Rinascimento compreso, sono orientate a est. Santa Maria Novella ha l'abside a sud, l'attuale Santa Maria Novella. E non torna, soprattutto in una chiesa domenicana. Ma ricordatevi che quella che noi abbiamo è una chiesa che è stata rimaneggiata più volte, che è stata modificata e che non nasce domenicana, diventa domenicana. La struttura di Santa Maria Novella, che ne dicano, è cistercense, proprio per come è strutturata a livello architettonico, ha cappelle quadrangolari, ha un'abside quadrangolare, e quando abbiamo, prima dell'epoca rinascimentale, absidi quadrangolari e cappelle quadrangolari, siamo sempre in presenza di una struttura architettonica legata a San Bernardo di Chiaravalle e quindi all'ordine cistercense. Ora, se l'abside di Santa Maria Novella è a sud, io tengo il sud alle mie spalle, d'accordo? Do di spalle all'abside, guardo all'uscita di Santa Maria Novella, che quindi è a nord, se l'abside è a sud, ciò che le sta di fronte è a nord, e di conseguenza questo affresco cade a est. Ci siamo? Perché, diciamo, alla mia destra, se io do di spalle all'abside. Quindi è sul lato dove avrebbe dovuto esserci l'altare maggiore. Allora questo affresco c'entra. Allora questo affresco ha un motivo di essere lì, dov'è. Non a caso poi questo affresco è esattamente di fronte a quella che è la porta che dava sul cimitero più importante di Santa Maria Novella. Ancora oggi, se voi andate a Santa Maria Novella, entrate in tutta una serie di cappelle cimiteriali, di zone cimiteriali, dal 1800 a ritroso. Ma il cimitero, quello che non potete visitare, che di fatto è dove sono sepolti gli abati della chiesa, sta entrando proprio a metà del lato destro della chiesa, esattamente di fronte a questo affresco. Può essere che venisse detta messa anche davanti a questo affresco. Capite che se questa fosse una pala d'altare maggiore avrebbe senso? Perché non ha senso mettere Dio Padre su un lato quando ho un'intera abside davanti a me con più cappelle e dove di fatto io non ce l'ho un'abside antica, perché quella che ho oggi è dipinta agli inizi del 1400, forse anche dopo, metà 400, famosissima per il crocifisso di Giotto sospeso al centro appunto dell'abside, ma io non ho una cosa dipinta precedentemente a questo affresco. Ho un ciclo di affreschi che è posteriore, di pochi anni, ma comunque posteriore. Questo è il tipico dipinto che io mi aspetto sull'altare maggiore, nell'abside. Dio Padre, il Cristo crocifisso e i donatori. Io non me l'aspetto in una cappella di famiglia e soprattutto non me l'aspetto su un muro che non è neanche una cappella di famiglia, perché è il lato lineare della chiesa. Le cappelle le ho tutte in fondo e ne ho un bel po'. In tutto il transetto ci sono cappelle e anche sottoterra ci sono cappelle, per cui perché posizionarlo lì? Inoltre, i donatori non sono mai stati identificati, non sappiamo chi siano. E ai piedi di questa crocifissione abbiamo una tomba che è di nessuno. Questa tomba che è di nessuno ci dà uno scheletro che è uno scheletro in generale, che è un memento moris, cioè un ricordati che devi morire. Non è un elemento che mi aiuti a identificare una famiglia o a identificare una persona famosa. E in più sta proprio di fronte alla porta del cimitero degli abati. Per cui può essere che questa parete venisse utilizzata come altare per dire messa per i defunti o in occasione dei funerali degli abati. Un tipo di rito estremamente privato, realizzato a chiesa chiusa e non aperto alla cittadinanza fiorentina. Quindi poteva anche essere utilizzato un luogo della Chiesa che non fosse l'altare maggiore, quello canonico, quello ufficiale. Allora avrebbe motivo d'essere. Cos'ha di interessante? Beh, tutto, vero? Tutto. La prospettiva in modo particolare. L'abbiamo tutti studiato a scuola per la prospettiva in modo specifico. Questa volta a cassettoni che consente un'amplificazione indicibile, che anche oggi che è stata restaurata, che ormai è sbiadita, eccetera, dà ancora una percezione di sfondamento nel muro incredibile. Sembra proprio che ci sia una cappella, là dove cappella non c'è. Per cui questo studio straordinario di prospettiva portata è uno dei primi grandi capolavori che consentono a quello che poi sarà il trompe l'oeil di nascere. È Masaccio, siamo agli inizi del 1400, siamo a Firenze, là dove lo studio della prospettiva ritorna ad esistere. Masaccio, Brunelleschi, i codici che arrivano appunto dal mondo antico, Vitruvio e quant'altro. Importantissima. Studiata, diciamo, soprattutto per questo e costruita con una struttura architettonica che mi permette di concepire questo spazio come se io stessi davanti ad un ingresso e guardassi attraverso questo ingresso. Un po' il gioco che abbiamo appena lasciato in Bosch, no? L'idea di avere un'architettura che funge da finta cornice per indurre il mio occhio a guardare cosa c'è dentro, a spiare che cosa sta dentro. Con una costruzione straordinaria e intelligentissima rispetto al piano della chiesa, tra l'altro, noi abbiamo un Dio Padre che sta stranamente su un livello che non riusciamo a spiegarci apparentemente, che regge una croce che comunque è piantata su una roccia che è perfettamente in asse, guardate un po', con lo scheletro che sta sotto. Nella tradizione medievale, ai piedi di questa croce c'erano sempre le ossa di Adamo, del primo uomo. Ne parlavamo ieri a medievale, si riteneva che il sangue di Cristo fosse gocciolato sulle ossa di Adamo a ripulire il peccato originale. Adamo, primo uomo, colui che compie il peccato originale, è la causa che indurrà Dio Padre a mandare il Figlio sulla terra per redimere l'umanità. La croce, secondo la tradizione ebraica, venne proprio incuneata sulla tomba del primo uomo, a purificazione dell'umanità stessa. Come risolve Masaccio il problema della Trinità? Perché qui abbiamo la Trinità. La risolve con una colomba in volo, che, come ho sentito dire 15 giorni fa a Firenze, sembra un fazzoletto scout al collo di Dio Padre. Questo biancore che vedete non è un bagliore di luce e non è tanto meno il fazzoletto scout, vero, di Dio Padre. È la colomba dello Spirito Santo. Che lo Spirito Santo, vi ripeto, che secondo il credo di Nicea procede dal Padre al Figlio e con il Padre è adorato e glorificato. Ecco che Masaccio trova un'altra soluzione ancora per posizionare questo Spirito Santo, che non posa sul legno della croce, che ha già fatto Campin due volte, non posa sul Cristo, ma aleggia e ha una forma nell'apertura alare che ricorda la fiammella dello Spirito Santo. Perché lo fa bianco? Beh, perché la colomba è bianca e perché non poteva usare altri colori, se la sarebbe mangiato il rosso della tunica di Dio. E Dio non poteva essere completamente in rosso, perché altrimenti l'idea del marmo rosso veronese dipinto si sarebbe mangiato la tunica. Non avrebbe potuto nemmeno essere completamente vestito di blu, perché sarebbe proprio infossato dentro, vero? Il blu da profondità avrebbe creato un buco, diciamo, visivo nello spazio. Cosa fa Masaccio? Una cosa molto astuta. Non rientrando nella tradizione dell'epoca, la tunica dorata a Dio, come invece avrebbero fatto in altre zone geografiche, a Siena per esempio, a Dio Padre mette i colori che nella tradizione iconografica indossa il figlio solitamente, perché è il Cristo che veste di rosso e blu. La doppia natura, no? Divina e umana. Divina è il blu, umana è il rosso. Lo fa indossare a Dio Padre. In questo modo, pensate un po', crea una sorta di effetto speculare con i colori dei cassettoni che stanno nella prospettiva, rosso e blu. Come se il soffitto fosse un riverbero della luce di Dio Padre. E mi sento di dire questo con una certa sicurezza, perché siamo esattamente nella chiesa dove Paolo Uccello, qualche anno prima, aveva dipinto il ciclo proprio dietro questo muro, sullo stesso muro, ma nella parte esterna, della vita di Noè. E pensate un po', esattamente dietro, e questo, caspita, nessun libro ce lo dice mai, esattamente dietro a questo affresco c'è l'affresco in cui Paolo Uccello ritrae Noè che dice messa, celebra la gloria di Dio nel momento in cui il diluvio universale smette di esserci. Ed è quel famoso affresco in cui Noè si riflette come se fosse uno specchio nelle nuvole. E noi abbiamo questo effetto strepitoso di immagine portata sulla nuvola che ci dà Noè speculare, dandoci l'impressione che Dio Padre vegli su Noè, ma andando appunto a smontarla e ricostruirla ci si è resi conto che è un'immagine riflessa, come se fosse su una nube piatta. È tra l'altro uno dei punti di partenza dei quali siamo partiti con il corso dell'anno scorso di Moderna. Per cui questo rosso e questo blu è una cangianza, è una riverberazione dell'abito di Dio. Cristo indossa soltanto un lino a copertura, e tra l'altro guardate quanto è basso rispetto alla tradizione, vero? Per cui ce lo lascia quasi nudo, come se il peso anche di questo perizoma fosse tale da scendere verso il basso. I piedi sono entrambi inchiodati da un unico chiodo, e questo è tipicamente fiorentino e quattrocentesco. E Giovanni e Maria sembrano, e questa è una cosa sottolineata più volte dalla critica, del tutto indifferenti alla tragedia che si sta vivendo. Maria non è disperata, Maria sembra proprio indifferente alla situazione, rassegnata, indica al pellegrino, al visitatore, la croce di Cristo, e Giovanni non è in lacrime come invece la tradizione iconografica vorrebbe. Sono nella posizione canonica, Giovanni a destra, Maria a sinistra, ma sono assolutamente asettici, come se fossero di fronte a qualsiasi altra situazione. I donatori, che vestono, se notate, gli stessi colori di Maria e di Giovanni, hanno questa posizione a X, a chiasmo, non sono mai stati identificati. Qualcuno ritiene che fossero i genitori o il fratello e la sorella o il fratello e la cognata dell'abate che commissionò questo affresco, ma non ne abbiamo certezze. Tutti abbiamo studiato questo affresco, e poi vi lascio respirare, per la prospettiva, dimenticandoci del fratello, diciamo così, laico. di tutto ciò. E se vi ricordate chi era il fratello laico di questo affresco? No, hai letto solo il titolo della cartella. Un po' di memoria? Altro soffitto a botte, altra prospettiva ben costruita? No. Piero della Francesca. E adesso se ce la faccio anche ve lo faccio vedere. Cinquant'anni dopo, la stessa prospettiva viene costruita in una situazione che è quasi laica, perché è una sacra conversazione. Ma se notate, probabilmente l'opera di Piero della Francesca senza Mantegna non avrebbe potuto essere costruita nello stesso modo, con una precisione prospettica incredibilmente meravigliosa. Meno azzardata però, se notate, no? Abbiamo un'inclinazione minore in Piero della Francesca, per forza, perché lo spazio per il quale è pensato è molto più ampio e l'osservatore è qui. In Masaccio l'osservatore, fate attenzione, è qui. Per cui per ottenere questo effetto prospettico deve aumentare l'inclinazione del catino, dell'apertura, se no non funziona. Questo dislivello va a giustificarmi la forte inclinazione qui. Se notate, abbiamo in Masaccio il doppio punto di vista che è tipico della pittura fiamminga. La visuale dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso. E guardate che non è improbabile che conosca il camping che noi abbiamo già visto. Ovviamente non ha visto la tavola, avrà visto dei disegni. O nell'aria sta girando quest'idea di Trinità. Perché sono uno troppo legata all'altra per essere casuali. E pensate quanto questo assomiglia a quello che noi abbiamo lasciato sulla cappa dell'immagine che abbiamo visto all'inizio di questo discorso, cioè sulla cappa appunto del camino, cioè l'idea del Dio Padre che regge una croce con la colomba nel mezzo. Capite che questo piccolo elemento, dipinto come se fosse una statua, è quest'idea, pari pari. Qual è la differenza? Che Masaccio ha visto sicuramente una quantità di drammi liturgici incredibili, per cui questo effetto lo ha visto su un altare maggiore. Perché? Perché quest'idea di Dio Padre che è sospeso su un piano a mezz'aria rispetto alla croce, noi lo giustifichiamo solo se ci ricordiamo di una cosa che non è scritta nei testi di storia dell'arte, ma di storia della scenografia. Là dove ci viene detto che la scena della crocifissione avveniva sull'altare maggiore, che era sopraelevato rispetto all'assemblea. Ci siamo? Funzionava così, e anche questa è una cosa che prima o poi bisognerà scrivere, perché ci spiega un sacco di cose. E poi vi lascio andare a prendere il caffè. Non so disegnare, vuoi a voi a chi lo racconta? Allora, io ho un altare romanico, un altare maggiore romanico, d'accordo? Transetto, zona dove c'è l'altare e sotto la cripta. Ci siamo? La cripta da sempre è considerata zona funeraria, La cripta viene usata nelle sacre rappresentazioni del 1200, dal 1200, come se fosse il sepolcro di Cristo. Per cui il giovedì santo si celebra l'ultima cena, il venerdì santo si mette in scena la Via Crucis con tutta la flagellazione e Ponzio Pilato, eccetera, e il Cristo viene sepolto idealmente in cripta, la parte sotto la chiesa, sotto l'altare maggiore. Altare maggiore, cripta, siamo certamente con degli archi, con delle colonne, eccetera. Altare maggiore, altare, d'accordo, scale che salgono, balaustra, eccetera. Che cosa accade nelle sacre rappresentazioni megagalattiche? Accade che la domenica di Pasqua la cassa che rappresenta il sepolcro di Cristo della risurrezione viene posizionata accanto all'altare maggiore, o è direttamente l'altare maggiore. Ci siamo? Dove è avvenuta la scena della crocifissione? Qui dietro, qui dietro. Per cui voi immaginatevi, ancora dietro l'altare maggiore, una zona dove è stata messa in scena la crocifissione. Ci siamo? Abbiamo i buchi nei pavimenti, per cui sappiamo esattamente dove venivano posizionate queste croci in alcune chiese. La domenica di Pasqua si mette in scena la risurrezione. Guardate che esistono delle chiese, San Zeno a Verona per esempio, il Duomo di Modena per esempio, con questi incredibili palcoscenici, perché di fatto un presbiterio sopraelevato è un palcoscenico strepitoso, dove dietro l'altare vi è una botola. E capite che la risurrezione avveniva in diretta? Cioè il celebrante, il sacerdote, perché solo il sacerdote poteva interpretare la parte recitata di Cristo, risuscitava, cioè saliva scenograficamente, teatralmente, dalla cripta all'altare maggiore, talvolta sopra l'altare, addirittura in piedi sopra l'altare, come con un ascensore, piattaforma di legno, carrucole a braccia e la sopraelevazione di colui che incarnava la risurrezione del Cristo. Ecco perché probabilmente Masaccio si inventa una cosa come questa. Dio Padre ricorda un po' l'immagine della risurrezione che sale sopra ad un piano. La croce sta davanti, cioè è come se anziché essere dietro fosse davanti all'altare e Dio Padre fosse in piedi sull'altare o perlomeno sul bordo del presbiterio. Potrebbe essere un presbiterio. Non sono davanti alla cripta, sono spostato rispetto alla cripta. Ecco che io posso immaginarmi un uomo in piedi che regga una croce piantata sotto. Guardate che tutta la pittura rinascimentale, come già abbiamo visto parlando di Raffaello, e questa è un'idea mia, sappiatelo, non è frutto di qualche cosa che uno si è inventato perché si è fumato qualche cosa di diverso, ma è frutto di quello che 99 dei casi, nel 99% dei casi, i pittori hanno visto e l'hanno visto fare nelle sacre rappresentazioni, nel nascente teatro all'italiana. Non sono soluzioni pensate a tavolino, sono soluzioni che vengono realizzate perché sono state viste, mettere in scena e recitare. Ma di questo parliamo dopo il caffè, così ve lo faccio proprio vedere un personaggio che resuscita in questo modo. Ricordatevi di firmare. Bravo, Lorenzo, posso chiedere una cosa? Certo. Io mercoledì prossimo sarò in via Pelli d'Arancio per i pannelli. Ah, oggi proprio questa pioggia non ce l'ho. Non so bene, comunque mi conta un'assenza o... Ci sarà anche di Stefano Riccardo. Cosa mai? Sai che cosa fate? Dei panni di presenza, me lo scrivete? Sì, ma quello... Io in firme. Vai sul tuo nome, presenza, scrivi via la grana, e io lo so. Lo faccio allora, adesso? Sì, okay. Lo faccio anche per anche per lui, certo. Va bene, grazie. Siete giustificati, mancate per l'accademia. Grazie per averlo detto. Io questa ce l'ho, secondo me. E allora io ti faccio una cosa. Allora, guarda. Io questa ce l'ho ed è carina. Ti dico quello che ho, ma questa anche faccio. Questa è facile, poi è facile. No, ma c'è questo qui poi ci sarà. Ci sono poi che verrà. Conto che appunto io ho preso tutti i pezzi, tutte collate a casa, cioè, sono scritti, cioè non so come dire, non so come spiegare, sono proprio collati, cioè io li ho staccati da degli spazi, non so se per la pagina, però cioè non è un file, sono vari pezzi che ho collato, quindi leggi, cioè sono proprio di una cosa. Poi ho fatto. Arrivederci, professor. Ciao. Poi, anche se non l'ho messa, secondo me questa è questa. Tu per te si è scelto e pungi. Questo parlare di lei, poi mi ha fatto parlare dell'autoritratto, sai che devi parlare dell'autoritratto, sì. E se ti posso consigliare non fare una cosa. E io ho fatto una specie di installazione, cioè gli ho portato un progetto nell'installazione. Infatti se ti posso consigliare non portare qualcosa di puramente figurativo, cioè un autoritratto e basta, però che sia qualcosa un po' di particolare, cioè che ci puoi spiegare un po' di concettuale, non so dire. Io sono molto figurativa, però volevo fare un'installazione che si possa un po' spiegare, qualcosa di me. Perché il giorno dell'esame si faceva, non so dire, le piaceva di più portare qualcosa di più personale da spiegare, che non fosse solo una foto, sono io, basta. Spero, quello consiglio. Però sì, parti da un argomento, poi l'autoritratto con quello chiede di vederlo, se è da parlare, ne parli. E poi non è anche se in realtà non è anche se nessuno, cioè, ma dipende, però dipende, non è che non te lo chiede, dipende, e la giudice no, ma se non fosse la giudice quest'anno, Io dico questo qua, però sono 9, ma 4. Tu ne hai, cioè ne sai qualcuno che ti piace? Ah, ok, beh, mettilo allora. Quindi questa qua, sì, eh? Questa. Perché io cosa ho fatto? Li ho messi, cosa ho fatto? Li ho messi su internet, ho un po' guardato le opere, e ho fatto però non so. Allora, voi di chi fossero? Ah, beh, metti lei. C'è lui anche, però Morimura, così è giapponese, è cinese. Morimura? No, è giapponese forse. Beh, però, giusto, no? E io ti mando quelli che ho io. Tutti. Io ti mando tutto, poi vedi quali erano che hai anche tu. E, ma niente, poi di ognuno tu fai una piccola ricerca, eccetera. E, se puoi, tu hai anche dei libri da leggere, avete dato anche dei libri da leggere? Non dovete leggerli anche, cioè tipo questi qua. No, devo perché scegliere devi leggere uno e uno, cioè uno dei saggi e uno romanzo. Però non so se anche voi, sinceramente non so questo, provo a chiedervi se... Comunque, niente, dopo che leggi tutti posso dirci. Ma... sì, cioè forse perché sì. Beh, sono le quattro che sono così. Però non so se dovete anche voi leggere di testa. Non lo so, ok. Però sì, se dovete leggere, devi leggere almeno uno e uno. Il saggio è un altro. E tipo guarda su internet un po' le trame, vedi cosa ti può ispirare, cosa ti può piacere. E niente, cosa ti posso dire? Sì. Qualche... Ah sì sì, tu chiedi, ma sì, dalle di lettura, no, dicevo, i libri devi leggere secondo me, e una volta che scegli i libri, quando poi hai tutto, va bene che studi gli artisti, però cerca di farti una sorta di percorso, esatto, cioè pensate un percorsino magari tra gli artisti che leggi, così se ti interessa e fai tutto il discorso da sola, ok? Però beh, tra di loro se proprio cerchi, ritrovi, poi ti vengono tutta una diversità. E niente, poi ci sono queste bellissime differenze da leggere, che sono complicatissime. Te lo dico, non lo sei bisogno. Niente, io ti mando quello di lì e tanto mi mangio un po'. No, no, povero. Però vai a chiedere tutto se la professoressa se fa una ridirigimento. Ok, e le chiedi, quindi magari le ti consigliamo qualche testo più facile, o ha qualche testo magari che non è in bibliografia, che puoi dire, potete leggere. Ok, tanto grazie. Ma sì. Ma non è tuo quello? No, no, è dell'altra ragazza. Vuole caffè? No, grazie. Ma c'è un proliferare di termos di caffè? Cosa dici che significa? Beh, oggi... e noi siamo dalle 9:30 che mi stavo lasciando. Ma tra l'altro mi sono accorta che sono le 4, ma nella mia testa erano le 3. Per cui vi ho fatto fare pausa dopo 3 ore. Ah, ora? Proprio da matti. Sì, ora abbiamo solo per un'ora e mezza. Cose da pazzi, come avete fatto a sopportare? Poi sfrutti. Ma io non ho staccato il registratore. Ormai. No, ma tanto, sì, in effetti. Non abbiamo detto niente di così grave. Sì, no, è perché sennò poi nella registrazione devi aspettare che vada avanti. La pausa. Io queste le trovo poi anche in quello che sì, dicevamo? Sì, sì, le ho messo proprio, c'è la cartella medievale, madonna. Fantastico. Grazie. Fantastico, viene registrato. L'ho registrato. Io no. Sì, il tuo registratore. L'ho appena staccato. L'ho appena... Allora, niente, allora fantastico, non l'ho registrato. Ma lei si sta curando questa bronchite pazzesca? Da una settimana. E serve? Funziona? Ce la fa? Sì, ce la fa, ma sono una settimana interamente. Ci credo. Un disturbo. Anche due. Ce l'hai, Guido, se no se apri da me c'è un contenitorino fucsia e dentro trovi anche le matite. Guarda se ce l'ho io, così non ce l'hai. Se ce l'hai, se no prendi pure da me. Mi dispiace che lei stia così male, più che altro. No, ma ormai, non so, con un basta, la febbre non c'è più, ovviamente, e io mi sento male, e la paura non passa. Più che trovarmi con la codeina, la sera, di giorno. Buongiorno. Approfitto, no, grazie, della tua gentilezza. Sulla sinistra c'è un contenitore. Dovrebbero esserci delle matite anche. C'è, la rugio. Ricordati che puoi aprire e prendere qualsiasi cosa ti serva, eh? C'è anche lo scotch, ci sono anche le forbici. No, sappilo, se ti serve c'è sempre. Il giorno che non sarai più in questa accademia sarà un brutto giorno. No, sarà un giorno di festa. Ma sarai i fasti di Milano, di Ma Brera. Ma quali fasti? Alla Royal Academy of certo, Fine Arts. Con le rose sopra, farò lezione dentro al tabernacolo. Imperial School certo, con la corona sulla la testa. La coroncina che sarebbe. Certo, ogni lezione perlomeno terrebbe giù i capelli e i giorni di umidità. Un regale come sei. Ma va là. Oh, lo yogurt c'è sempre, eh? Ma se no ha uno stocco, ha un frigo di yogurt dentro lo zaino. Sì, no, è vero, mia madre mi riempie di yogurt praticamente. Non ha le vetrine. Le dico che mi piacciono gli yogurt, allora per una settimana me ne contravente. Quindi dovrei fare. Io, poi ho delle altre foto, poi tipo per esempio tecniche cartografiche speciali che con l'incisione tutto l'anno devo darlo poi dopo il prossimo anno, perché prima di avere più lavori e quindi lavorerò ancora primo semestre, il prossimo anno lo darò. Ci sarà la prossima pubblicazione? Questa? È la prossima pubblicazione, perché lo state sentendo prima che venga scritto. Non dovrei farlo. Però non credo rubere le cose. Perché questa cosa della botola è incredibile. E questa pala è in quella chiesa, tra l'altro, vero? E mantegna apparatore è qualcosa che non conosciamo. Per cui sarà il prossimo compito per casa delle vacanze. Vedere se in archivio di Stato a Mantova c'è qualcosa, ma sarà difficile. Provare, basterebbe anche solo un accenno. Sarebbe già tantissimo. Con il testo c'è una data di scadenza, una decina di giorni prima dell'esame. Io trovo magari di mandarle i primi di maggio. Beh, meglio prima ce l'hai, meglio è, ma diciamo entro una decina di giorni prima dell'esame. Sì, se ce la fai prima tanto meglio, così se qualcosa non va ne parliamo prima e non in sede d'esame. Io preferisco sempre quando ce l'hai pronta. Le immagini io non so come, perché tipo sono abituato a fare un testo, arrivo tutto in Word senza immagini e poi farlo un po' più in bella, magari impaginato con le immagini, con quanto programma. E lo senza immagini, può andare bene. Poi ma senza fare le colazioni. All'esame viene invece con tutto carino e magari ho fatto una copertina, un titolo, un corso. Cosa carina. Sì, sembra una Perché no? No, beh, poi ovvio. Però solo per sapere un po'. Sì, non ti preoccupare. Io prima vedo il testo, poi tutto l'impaginato, i fiocchi. No, perché sempre due documenti per qualsiasi cosa. Certo. Va bene. Io vedo il testo prima. Poi le cose tutte carine le porti all'esame. Sì. E io ti ruberò, ovviamente. Se poi hai impaginato bene, carino, te lo rubo. Una copia me la tengo. Hai scelto come soggetto quello di Michelangelo, Le tentazioni di Sant'Antonio. Bene. E ho preso il trittico delle tentazioni. Certo. Però, sì, ma non è grave, perché io farò un esempio probabilmente settimana prossima, se oggi riusciamo a finire, ma non credo vista l'ora, rispetto invece al San Gerolamo. Ah, ok. E così vediamo il critico, però io parlo di una cosa diversa. Io ho deciso se cambiando più anche il soggetto e provo a fare quello di San Gerolamo. Ero deciso se usare San Gerolamo o Sant'Antonio. No, se usi Sant'Antonio meglio. Sì. Perché il paragone è più immediato. Però anche l'altro ci poteva stare. Ci sta anche l'altro. Quello sì. Soprattutto per le strutture architettoniche sotto ci sta. Lo sto finendo in questi giorni, c'è un po' di cosa da fare. Beh, di solito la quantità di cose da fare la capisci dalla situazione delle scrivanie. Più la situazione è oceanica e non trovi niente, più ci sono cose da fare. Mi sto già usando anche il pavimento come... quello nella casa dove sto adesso non riesco, non mi viene, no. Allora ho sgabelli, tavolini, sono tre scrivanie, ma ciò nonostante scrivo in cucina perché non c'è posto in studio e quindi questo marasma. poi passo le giornate a sistemare. È più bello che tutto è sistemato. Appena inizio a lavorare siamo da capo. Non c'è speranza. Poi vado a casa di qualche amica. Sono tutte case da Vogue, capito? La depressione totale. Ma io uguale, non sul materiale, il disegno, tutto sparso, quando devo scrivere invece, devo andare al libro, però poi dopo non posso più ricordo, perché poi non mi ricordo e dove l'ho messo. Appunto, per cui li tengo aperti, ci metto dentro il segnalibri, eccetera, però poi mi sbaglio, metto dentro le cose che non dovrei, mia figlia viene a prendersi le sue cose, si va a acquistare il mio programma, serve a me. No, ma infatti tutto il film sono fatto con i segnalibri di carta, con un simbolo, però di simbolo vuol dire, ah, qua c'è un punto di arte, che ho... Però dovrei uscire. Bene. Cosa dite? Riprendiamo. Ce la fate. Abbiamo fatto una pausa di 20 minuti. Ce la fate ad andare avanti? Mi reggete ancora un po'? Invece no, altrimenti i capelli mi si tingono naturalmente solo a sentirla. Posso chiudere? Sì, grazie. Ma prima di tutto mi scuso, credevo fossero le due, invece erano le tre. No, le tre invece erano le quattro. E non vi ho fatto fare pausa per 3 ore. Eroici proprio. Sì, come no. Alla sua età non si possono più dire bugie, se lo ricordi. Oh, torniamo indietro anche su quest'altra strepitosa opera. Pala di San Zeno, Andrea Mantegna. Noi abbiamo parlato della parte superiore. Vediamo la predella, perché non ne abbiamo parlato. Ma farlo quando abbiamo fatto la parte superiore senza aver detto tutto quello che ci siamo detti in queste 3 lezioni non vi avrebbe aiutati a capire la predella, probabilmente, come invece a me piace che si entri nell'argomento. La predella, lo ricordo per chi l'avesse così dimenticato, è la parte che fa da zoccolo alla pala d'altare, vero? Per cui predella nella parte sottostante e quella di San Zeno è costituita da 3 tavole. 3 soggetti inerenti alla Settimana Santa. Vediamola in grande. Questo l'ho proprio usato, ve l'ho fatto vedere come promemoria, giusto per ricordarvi dov'è, come è fatta. Oh, per inciso, vero? La chiesa di San Zeno a Verona è una chiesa romanica, ha un'ampia cripta a vista e un presbiterio sopraelevato molto grande. Dietro l'altare ha pure una botola che in questi anni spesso si sono chiesti a che cosa caspita serva mai una botola. E qualcuno aveva ipotizzato, pensate un po', che la botola dietro l'altare maggiore servisse per vedere da sopra la tomba di San Zeno, che è in cripta, non a caso. Vi ripeto, la cripta quasi sempre è una zona cimiteriale. A me invece è venuta quest'altra idea, cioè che quella cripta fosse anche luogo, diciamo, di sacra rappresentazione, che la botola, tra l'altro le misure tornano, potesse servire giusto per un ascensore verticale. Vi ripeto, nel mondo del teatro rinascimentale l'utilizzo di ascensori a carrucola, per cui tirati su a braccia da 4 persone, erano la normalità. Anzi, se vogliamo essere più precisi, anche nel teatro greco questo tipo di ascensore esisteva. E nel mondo romano questo tipo di ascensore veniva utilizzato soprattutto nelle arene. Chi tra voi ha visto il gladiatore? La scena di lui che sale da sotto dovrebbe essere così da esempio, perché quella fu proprio una scena realizzata con carrucole a braccia. Piattaforma, chi deve salire posizionato sopra viene tirato su ed esce all'improvviso. È un colpo di scena, un colpo di teatro. Perché la predella? Guardate, allora, tre tavole. Una che è quella della famosissima scena prima dell'inizio del Calvario, quando Cristo prega nell'orto degli ulivi. La città posizionata sulla sinistra non è Gerusalemme, è Verona. Ricordatevi, questa pala d'altare gli viene commissionata per la chiesa di San Zeno a Verona. Sta lavorando a Mantova, per cui è a 40 km da Verona, e gli viene commissionata questa pala. La città che lui va a raffigurare è la città di Verona, e su questa gli storici sono proprio unanimemente concordi. La cinta muraria, l'arena, che lui chissà per quale motivo ci dà coperta, ce la dà con una cupola, e lo fa in più situazioni. Il castello scaligero, il fiume, che corrisponderebbe all'Adige, per cui diciamo è un orto degli ulivi che ha un nesso diretto con la città che ospita l'opera. Guardate che Mantegna lo fa molto spesso. Scena centrale, per cui l'orto degli ulivi l'abbiamo qui. Nella scena centrale abbiamo la crocifissione, e all'orizzonte continuiamo ad avere Verona. Qui dietro. Poi parliamo delle singole tavole. E terza tavola, quella a destra, per cui posizionata qui, ci dà la resurrezione. Guardate un po' com'è la resurrezione di questa predella. Sarcofago in marmo, scoperchiato, dentro ad una grotta, e Cristo, un Cristo triumphans in questo caso, che esce come salendo una scala, come se ci fosse una scaletta dentro a questo sarcofago. Perché mi ha fatto venire in mente i drammi liturgici della resurrezione questa tavola? Voi direte, perché lei è fuori di testa, il che è anche vero, ma me l'ha fatto venire in mente perché, guardate un po', vedete questa mandorla che sta alle sue spalle con questi angeli? Ecco, questa 9 volte su 10 è una macchina scenica, funziona in questo modo. Voi avete tutta la struttura che gli vedete alle spalle, che gli fa da reggischiena. Guardate che abbiamo queste macchine proprio documentate da tutta una serie di disegni fiorentini, però non veneti, e solitamente quella macchina scenica era fatta così. Voi avevate la mandorla in legno, d'accordo, e a questa altezza c'era una sorta di gradino su quale si poteva stare in piedi, appoggiati i piedi. Sul retro, voi immaginatevi in prospettiva, tanto io non so disegnare, voi lo sapete già. Ecco. Sul retro voi dovete immaginare dei ganci, degli agganci con il paranco e la possibilità di tirarlo su con delle carrucole. Paranco e la salita. La persona stava in piedi qua. È chiaro? Lo so che sembra il gioco dell'impiccato, ma insomma è giusto per darvi l'idea. Ora, immaginate poi, scusate che lo spegniamo. Immaginate poi che questo effetto, esattamente con gli stessi colori, con la stessa situazione, verrà utilizzato per le apoteosi anche nei festeggiamenti, per esempio, dell'incoronazione di Luigi XIV. Userà esattamente la stessa macchina scenica per apparire alla corte. E pensate un po', la macchina scenica con la quale Luigi XIV si presenta è raggiata esattamente come questa mandorla. Luigi XIV prenderà il nome di Re Sole perché si insedia a corte con una festa dedicata alla luce del sole capace di vincere le tenebre della notte. Ecco perché viene chiamato Re Sole. Danza davanti alla corte, apparendo alla corte grazie a una macchina scenica raggiata come se fosse un sole. Guardate che è figlia di questa struttura, è questa struttura. Una struttura che Brunelleschi qualche anno prima ha utilizzato per quella festa dedicata allo Spirito Santo, all'Annunciazione, di cui già abbiamo parlato. È la stessa soluzione. L'arcangelo Gabriele scende dalla mandorla di Brunelleschi e la mandorla è fatta così. Tra l'altro, la mandorla di Brunelleschi, e questo ci giustifica probabilmente tutti i raggi, aveva tutta una serie di appoggi per le candele, per cui questa è una mandorla di fuoco, anzi non è probabile che le candele avessero anche della polvere pirica e quindi fossero dei piccoli fuochi d'artificio con la nuvoletta intorno, con il fumo. È uguale, è esattamente la stessa macchina scenica. Ora, come faccio a ottenere questo effetto? Un po' di fantasia. Solitamente dietro l'altare maggiore si costruiva proprio, si montava quello che doveva essere una struttura che poteva, qualora non ci fosse la cripta, essere il sepolcro. Veniva costruito sull'altare maggiore. Immaginatevi che questo sia finto, dipinto, su una tavola, perché solitamente si dipingeva su legno. Immaginatevi che davanti ci sia l'altare maggiore. Ci siamo? E che nello spazio che sta tra l'altare, tavolo proprio, altare, e la finta scenografia dipinta, ci sia la botola. Quest'immagine io la ottengo se apro la botola e dalla cripta faccio salire colui che rappresenta il Cristo. Guardate che questa è a tutti gli effetti una macchina scenica. Perché viene costruita la finta scenografia dietro? Per nascondere il paranco che tira su l'ascensore, no? Questo palo che ha la carrucola e che permette appunto la salita e la discesa della piattaforma. Perché guardate che sono troppe le scene simili a questa. E questa, credetemi, non mi dà solo il Cristo che sale, pensate a Piero della Francesca, pensate a tutte le grandi resurrezioni. Questa però, più di tutte le altre, mi dà anche la visione della macchina scenica, non solo la luce che sta dietro, me la disegna proprio. E questo è Mantegna, un Mantegna che lavora per la famiglia Sforzesca, un Mantegna che lavora per Mantova, per gli Estensi, e che molto probabilmente li ha accompagnati a Firenze per il famoso giubileo del 36, 1436. Ha visto le macchine di Brunelleschi. O perlomeno ne ha conosciuto a posteriori i disegni, perché guardate che quella macchina scenica fece il giro di tutto il mondo conosciuto. Niente di più bello venne mai visto. Lo ripeto, Leonardo da Vinci copiò di sana pianta quella macchina scenica per il matrimonio di Gian Galeazzo Sforza a Milano, ma la mise in scena laicamente. Quello non fu l'Annunciazione, fu invece il cosiddetto, potete andare a cercarvelo, ne esiste anche uno spezzone, ma è una macchina scenica costruita in un modo sbagliato rispetto ai disegni, che prese il nome di Festa del Paradiso. Su YouTube esiste uno spezzone di un film dedicato alla vita di Gian Galeazzo Sforza e lì viene messa in scena la Festa del Paradiso. Ci assomiglia, ma non è esattamente quella corretta. I disegni non sono quelli giusti, ma è per darvi l'idea dell'apoteosi. Mantegna frequenta Milano. Capite che era un evento colossale, quanto, non so, cosa può esserci oggi? Boh, la ruota panoramica di Londra, cioè una cosa che magari nessuno di noi ha visto, ma tutti sanno che c'è, la Tour Eiffel. Magari non l'avete vista di persona, ma sapete esattamente com'è fatta. Queste feste ebbero esattamente la stessa fama, girarono tutte le corti conosciute dell'epoca e si mandarono i propri architetti a studiarle per copiarle a casa propria. Mantegna, caspita, frequenta esattamente quelle corti, per cui figuratevi se non conosce quella macchina scenica. Tra l'altro il suo mestiere dipinge e molto probabilmente fa anche l'apparatore di teatro. Figuratevi se non conosce la macchina della Festa del Paradiso di Leonardo da Vinci, se non ha potuto vedere direttamente quella di Brunelleschi a Firenze. E questa è esattamente quella mandorla. Ecco che allora vado a capire tutta una serie di situazioni, non solo questa, ma vado a capire, tornando alla prima formella, anche quello che accade qui, nell'orto degli ulivi. Perché cosa c'è che non va? Guardate un po'. Vedete cosa c'è che non funziona qui? Qual è l'elemento meno naturale di tutto quello che avete di fronte? L'angelo. Esatto. Tra l'altro, per chi tra voi fa scenografia magari è più facile da capire, quest'angelo che arriva tuffandosi sul Cristo praticamente, no? Non è un po' troppo azzardato, non dovrebbe avere una posizione un po' meno ardita. Ma questa è la tipica posizione di un corpo che è imbragato in vita ed è retto da una fune. Se voi imbragate una persona e gli mettete un gancio sulla schiena, all'altezza della vita, va a testa in giù. Per forza, perché la testa pesa più di tutto il resto. Se noi andiamo a vedere Tintoretto, il San Marco di Tintoretto, caspita quel San Marco, ma non è troppo a testa in giù? Possibile che nessuno mai se lo sia chiesto? Come mai un uomo come Tintoretto, che ha una capacità prospettica sconvolgente, sbaglia le inclinazioni degli angeli e dei santi in volo? Non è possibile. E infatti non è mica un errore, è la copia di una persona sospesa, imbragata, esattamente come si faceva nei drammi liturgici. Tintoretto dipinge come un apparatore di teatro, applica la scenografia serliana. Cioè, sono scenografie. Ricordatevi che chi dipinge le scenografie sono i pittori, non è non si sa chi. Lo scenografo è anche il pittore di corte, o meglio, è colui che si occupa dell'organizzazione delle feste, ma è il pittore di corte che dipinge. Cioè, vi ricordate a Villa Chigi chi ha dipinto probabilmente le scenografie? È Raffaello Sanzio, è la bottega di Raffaello Sanzio che dipinge le scene per le feste a casa Peruzzi. Avete idea di che cosa dovevano essere? E cosa ci fa pensare che a Mantova non sia Mantegna? Scusate, Leonardo lo fa a Milano, perché Mantegna non deve farlo a Mantova? Perché Tintoretto non deve farlo a Parma? Capite che tra l'altro siamo nella stessa zona geografica, con influenze e scambi tra questi artisti, proprio diretti. Queste nuvole, tra l'altro, a me a colpo d'occhio fanno venire in mente una macchina scenica, perché le nuvole in teatro, all'inizio della storia del teatro, degli apparati del 400, le nuvole servono proprio a nascondere i meccanismi, gli ingranaggi. Sono sempre pannelli di legno leggero dipinte a finta nuvola, che nascondono di tutto. Come dicevamo, parlando della stella cometa dei magi a medievale, sono proprio le nuvole che nascondono la polvere pirica che diventerà poi nella tradizione la scia della cometa, perché nella rappresentazione antica la cometa è solo una stella, non ha nessuna coda. La coda gli arriva all'improvviso quando si inizia a costruire macchine sceniche. Perché? Perché la nuvola nasconde il meccanismo e quindi ho la stella in mezzo alle nuvole. E poi quando si aggiungerà la polvere pirica, i fuochi d'artificio che faranno fumo, la stella avrà una coda. Ed è bellissimo perché nell'immagine del 1400 la coda della cometa non è come la disegniamo oggi, ma è un turbinio di polvere. È quello che resta nell'immaginario del pittore di quello che ha visto a livello scenografico, la dipinta e la vista e poi la resa quadro. Ecco che allora questa inclinazione dell'angelo, caspita, è ampiamente giustificata perché è un imbrago di teatro. Perché la predella? Solo per questo discorso? Troppo facile. La predella ha anche la crocifissione, una crocifissione molto forte per l'epoca. Il Cristo, se notate, ha la croce piantata a terra e guardate cosa fa Mantegna. Mantegna fa una cosa galattica. Conoscendo bene il presbiterio di San Zeno, posso dirvi che il presbiterio di San Zeno ha una serie di fori a terra, utilizzati nel corso dei secoli, oggi tamponati con dei tappi di legno, per varie piantazioni, macchine sceniche, croci e quant'altro. Se voi avete l'occasione, per esempio, di andare a Lonato il giorno della Candelora, potete ancora vedere una delle più belle e straordinarie macchine sceniche della storia della Chiesa. Una macchina scenica che parte dal presbiterio e arriva fino all'apice della cupola. Cioè il celebrante dice messa a 27 metri da terra. È impressionante. E per terra ci sono tutti i buchi per piantare i pali per reggere questa macchina scenografica. San Zeno ha questi buchi a terra. Mantegna realizza questo lavoro avendo visto San Zeno. Per forza la pala va sull'altare, oggi è ritornata sull'altare, vi dicevo per anni e anni è stata di lato in navata, ma è proprio quell'altare che ha questi stessi fori, per cui la pavimentazione del presbiterio di San Zeno e la pavimentazione che voi vedete in questa predella sono praticamente la stessa cosa. Qui ha aggiunto un po' di ciuffetti d'erba qua e là per renderla più veritiera, come Golgota, ma questo è San Zeno. Inoltre, se notate, ai piedi della croce c'è un teschio. Questo teschio ricorda la tomba di Adamo, di cui dicevamo prima. Abbiamo una situazione incredibilmente dinamica in questa crocifissione. Guardate prima di tutto quanto movimento c'è. Abbiamo le pie donne che reggono Maria e sono disperate. È una delle prime situazioni in cui abbiamo donne disperate. Di solito sono tante, ma non sono così disperate. E qualche anno prima avremmo trovato soltanto Maria. Giovanni è in un posto che proprio è una situazione nuova in modo radicale, perché sta all'estrema sinistra della situazione. È questo Giovanni, disperato, con le mani giunte. Perché Giovanni è qui e non è a destra, dove canonicamente dovrebbe stare? Perché altrimenti non mi ci sta tutto. E Mantegna vuole inserire anche la scena dei soldati che si giocano a dadi le vesti del Cristo. E guardate come li fa sedere, cioè proprio come se fossero dei soldatacci di strada che stanno discutendo di qualche cosa. Tutto questo, e chi sta in piedi tiene le vesti, vero? Guardate il movimento incredibile che c'è sul retro. C'è una folla incredibile di soldati, di persone che salgono verso l'ipotetica Gerusalemme che è Verona. Ci sono dei personaggi che ci vengono dati in prospettiva e ci sono dei gradini qui che ci dicono che siamo su una zona sopraelevata. Inoltre, qui noi abbiamo dei personaggi a cavallo. San Zeno è a quanto? Meno di un chilometro dalla chiesa di Santa Anastasia a Verona, là dove Pisanello ha ritratto San Giorgio il Drago, la principessa e San Giorgio, e il cavallo di San Giorgio ci viene dato esattamente in questa posizione, visto da dietro. È un elemento che ha visto. Pisanello ha dipinto qualche anno prima. Siamo esattamente in linea. È tra l'altro quella una chiesa estremamente visitata e quell'affresco ha avuto una fama internazionale. Tanto che Parigi ne chiede una serie di disegni per poter copiare quel San Giorgio e la principessa. Questo potrebbe essere un omaggio, potrebbe anche non esserlo, ma è interessante vedere come nella stessa città un affresco famosissimo abbia un soggetto simile perlomeno. La crocifissione è una delle crocifissioni devastanti del 400. Perché? Perché abbiamo un Cristo che è già morto, agli occhi chiusi, questo non è mio, non c'entro questa volta, non si preoccupi, è già morto, gli occhi chiusi, costato, se notate, con uno studio anatomico particolare, drammatico, braccia, se notate, anche qui lievemente più lunghe di quanto dovrebbero essere, corpo fortemente allungato proprio per il peso. Ma la parte nuova che noi non abbiamo ancora visto è la soluzione di crocifissione dei due ladroni, che non sono inchiodati ma sono legati con delle corde, quello che sta alla sua destra, per cui quello buono, quello che si pente, è stato legato con le braccia dietro, vedete? Ancorato praticamente alla parte superiore della croce, ecco perché la croce era fatta in questo modo, per agganciare le braccia. Guardate che così morite soffocati nel giro anche di qualche ora. E con la stessa fune gli hanno fermato i piedi nella parte sottostante. Se avessero voluto farlo morire prima, non gli avrebbero legato i piedi, perché il peso sarebbe stato maggiore e nel giro, penso, di un paio d'ore massimo si muore. Quest'altro è riuscito a sfilare una gamba, guardate, e cerca di reggersi e di respirare, quindi facendo leva con il tallone sulla croce stessa, per cui per riuscire a dare aria alla cassa toracica. Noi non l'abbiamo mai vista una crocifissione fatta così. Per arrivare a questo significa che Mantegna ha visto crocifiggere qualcuno, perché una cosa così dettagliata ci mancava nella storia della pittura. Per cui una situazione estremamente drammatica, non solo nella figura del Cristo, ma soprattutto nella postura così spaesante dei ladroni. Guardate che cosa fa Antonello da Messina. praticamente nello stesso anno o quasi. Antonello da Messina, da tutt'altra parte, realizza una crocifissione come questa. Siamo a Messina, dipinge a Messina questa tavola, di questo siamo certi, è un olio e lo sfondo che voi vedete è stato da poco, tra l'altro, riconosciuto proprio come il Golfo di Messina. Eccolo qui. Per cui proprio da studi recentissimi su quella che era l'antica Messina del 400 ci si è resi conto che quello che è all'orizzonte della crocifissione è il Golfo di Messina. Per cui come Mantegna fa con Verona, mettendocela appunto al posto di Gerusalemme, così Antonello da Messina fa con il Golfo di Messina. La crocifissione è su un'altura della città di Messina, rendendo Cristo, diciamo, doppiamente legato a questo territorio. È una crocifissione di Messina per Messina e l'orizzonte e lo sfondo è la città stessa. Capite che anche l'uomo umile e semplice che guarda questa crocifissione si riconosce, si sente parte vitale, viva di questa situazione, perché riconosce i propri luoghi alle spalle della crocifissione. È come se fosse presente in prima persona alla crocifissione, perché quello è il suo spazio, il suo posto. Guardate con quale drammaticità, maggiore forse addirittura a quella di Mantegna, vengono trattati i ladroni. Qui non abbiamo nemmeno delle croci, abbiamo dei pali. E sono stati appesi proprio non legando i piedi, vedete? In modo che il peso del corpo li ammazzi prima. Le gambe sono penzoloni, sono state fermate all'altezza delle ginocchia in modo che non possano pedalare e abbiano delle difficoltà anche nell'appoggiarsi per tirarsi su al palo stesso. Antonello da Messina, sempre nello stesso periodo, poi fa un'altra crocifissione siamo 15 anni dopo, e se notate la postura del ladrone di destra, alla nostra destra, è lievemente cambiato, no? Le gambe soprattutto, guardate, qui abbiamo due gambe tese, qui ne abbiamo una che cerca disperatamente di appoggiarsi per consentire al ladrone di respirare. Riprendiamoci Mantegna. Guardate questa posizione e guardiamo Antonello da Messina. Stessa posizione, diverso punto di vista. No? Una gamba piegata per riuscire a prendere fiato, un'altra diritta. E qui abbiamo la stessa situazione. Certo, qui la torsione è ancora maggiore, ancora più drammatica. Antonello da Messina è un uomo che ben conosce la pittura spagnola, che ben conosce la pittura fiamminga. La pittura spagnola ha in sé, proprio per tradizione, una drammaticità enorme. Una drammaticità che proprio viene anche da uno spirito malinconico, triste, eccetera, che troveremo non a caso nelle sacre rappresentazioni spagnole, nei colpi di scena, nei sacramentales, atti proprio a impressionare, a terrorizzare l'assemblea, il pubblico, con queste aperture dei sipari su dei Cristi sanguinanti, grondanti, dopo una lunga descrizione molto minuziosa fatta da parte di un attore o di un sacerdote. E guardate questa postura unica proprio nella storia dell'arte, di quest'altro ladrone. Questo è quello, tra l'altro, buono, quello che poi si pente delle malefatte. Guardate quanto, pur essendo già molto drammatica la postura di Mantegna, quanto maggiormente drammatica sia quella di Antonello da Messina. Braccia completamente all'indietro, forte torsione del busto e queste gambe spalancate, se notate, legate in modo che lui non possa salire sopra il palo. Purtroppo, chi dipinge in questo modo probabilmente la crocifissione l'ha vista fare davvero, perché sono delle soluzioni talmente forti, talmente cruente, che solo chi le ha viste può ricordarle e metterle in scena. Noi che per anni e anni abbiamo visto questa crocifissione, io parlo almeno per me, non avremmo mai la fantasia di pensare una cosa come questa. L'avessimo visto fare, il discorso cambierebbe. Questo costa. Inchiodare del legno richiede manovalanza, ti serve qualcuno che lo faccia. Questo non costa niente. Si tratta solo di essere un po' di persone che agganciano il corpo di un uomo che non vuole morire, il che significa che si agita, si muove, eccetera, a un albero. Ma qui vi basta un albero. Anche qui, vero, un golfo molto sereno, una città murata e una situazione quasi da paesaggio idilliaco rispetto invece ad una tragedia incredibilmente violenta che stiamo vedendo in primo piano. Nella parte inferiore noi abbiamo una Maria ragazza, che qualcuno riconosce nella Maddalena, ma lo escluderei, e un San Giovanni in preghiera. Lo escludo perché la Maddalena autonomamente la troveremo 100 anni più tardi. La Maddalena è l'ultimo personaggio vero che entra, vero nel senso drammatico, che entra proprio nella sacra rappresentazione. Mai in epoca medievale vedrete una Maddalena ai piedi della croce, mai, non esiste, non c'è. Ma nel dipinto di Mantegna con la veste rossa? Sono le pie donne, potrebbe esserci anche la Maddalena, però se vedi non ha un ruolo da protagonista, cioè noi non la riconosciamo a colpo d'occhio. Dobbiamo attendere il Rinascimento per trovarla proprio piangente, con i capelli sciolti ai piedi della croce. Prima non c'è, proprio non la troviamo. Per cui vedete ancora una volta pittura italiana, influenze fiamminghe, soluzioni particolari. Cosa fa Bosch nei confronti di una crocifissione? Ne abbiamo una soltanto, è una opera tra l'altro acerba, diciamo così, per quanto riguarda il lavoro di Bosch. Aspettate che la troviamo, eccola qui. Tecnicamente ben costruita, una tavola d'olio anche questa, un'ottima conoscenza della tecnica, ma niente di sconvolgente rispetto a quello che abbiamo iniziato a vedere di Bosch. Cosa c'è in comune parzialmente con Mantegna? La postura di Giovanni. Giovanni è a sinistra con Maria. Nella tradizione Giovanni sta dal lato opposto a Maria, sempre a destra, mai a sinistra. Ed è un Giovanni che parla ad una Maria rassegnata, non c'è disperazione, c'è una grande compostezza. Abiti dell'epoca, lei veste già a lutto, è in nero. Giovanni invece è in rosso, perché Giovanni poi riceverà anche Pentecoste, vero? Riceverà l'illuminazione e sarà colui che scriverà. A destra noi troviamo un santo che solitamente non è ai piedi della croce, non c'è quasi mai, San Pietro. San Pietro lo riconosciamo a colpo d'occhio dalle chiavi anche che tiene in mano, le famose chiavi del paradiso, e dal fatto che è anziano. Pietro verrà sempre rappresentato molto anziano, pensate anche alle rappresentazioni di Caravaggio, no? non è mai un ragazzo Pietro. Colui che vedete in ginocchio con queste braghe a righe, si chiamavano così i pantaloni dell'epoca, e con una cuffia simile a quella dell'avaro che abbiamo lasciato poco fa, il donatore, di cui non conosciamo il nome, ma sappiamo sicuramente essere tra l'altro così stonato rispetto anche agli abbigliamenti degli altri personaggi, essere un contemporaneo a Bosch e quindi sicuramente il donatore. Ma è una cuffia da notte oppure proprio da giorno? Questa potrebbe essere anche una cuffia da giorno, volendo, però una cuffia semplice, che poteva andare bene anche per dormire la notte, no? E quindi un tessuto scuro e di conseguenza umile, con un mantello nero, per cui quasi un mantello penitenziale. E la cosa che mi lascia perplessa sono proprio le righe di questi pantaloni. Quest'uomo ha fatto qualcosa che non doveva fare e molto probabilmente commissiona la pala per espiazione, per purificarsi. Da qui appunto questi pantaloni rigati. Mi dicevano che... Certo, i pantaloni, le righe in generale nei tessuti sono sempre sinonimo di peccato. Le righe sono del diavolo. Siamo nella zona giusta, nel periodo storico giusto per dare proprio questo significato. Le righe nelle Fiandre, in modo particolare nel 1400, sono legate al maligno, sono legate al diavolo. Perché? Perché spezzano l'uniformità del colore. Ciò che è perfetto, che è uniforme, che è omogeneo, è divino. Ciò che è tagliato a pezzi, come il discorso delle frange che facevamo nel giullare, no? Della nave dei folli, appartiene invece a ciò che non è di Dio e quindi al diavolo. Guardate che per questo motivo le giubbe dei deportati nei campi di sterminio della Seconda Guerra Mondiale erano a righe. Ecco perché erano a righe. Ecco perché anche le casacche dei carcerati erano a righe. Per questo motivo, perché avevano commesso un peccato, avevano mancato rispetto alla legge. Il paesaggio qui, il paesaggio ci dà una città con alte rupi, esattamente come abbiamo lasciato nella Verona ideale di Mantegna. Queste montagne a Verona non ci sono, vero, così rigorose. E figuratevi se ci sono nelle Fiandre questi punzoni così rigorosi, ma che lasciano intravedere proprio una cittadina del nord Europa, con chiese gotiche e guglie. La cosa particolare è che qui sulla destra sembrerebbe, ma è un'impressione mia, non so se sia proprio così, essere presente una chiesa abbandonata. Eccola qua. Perché penso che sia una chiesa abbandonata? Perché mancano completamente le vetrate a queste finestre e sono tutte nere. Il tetto della torre centrale sembra anche essere fatiscente. D'altra parte, chi crocefigge Dio ha dimenticato Dio e quindi ha lasciato la sua casa. L'albero, al quale molto probabilmente, idealmente andrà ad impiccarsi Giuda, è l'unico albero completamente spoglio dentro ad una specie di bosco, ed è un albero che ha un'apertura, che ha una sorta di porta che fa entrare dentro. Non si vede, ma guardate che non è improbabile che dentro a una di queste fessure si nasconda una civetta, tipico elemento presente nelle opere di Bosch, perlomeno del Bosch maturo. Questa, vi ripeto, è un'opera tra le prime. Per cui vedete quanti elementi comuni abbiamo tra artisti dello stesso periodo così lontani. Perché abbiamo visto tutto questo? Lo introduco soltanto, poi vi lascio liberi, perché credo che ormai potreste detestarmi. Perché Hieronymus Bosch, nel Trittico delle Delizie, ci darà tutta una serie di elementi che abbiamo visto, tra cui una crocifissione, ma ci darà soprattutto questo nell'esterno. Guardate un po'. Il Trittico delle Delizie chiuso è fatto in questo modo. Ve lo faccio vedere aperto così capite qual è. è forse il più famoso fra tutte le opere che ha realizzato. Eccolo qui. Vi ripeto, forse il più famoso di tutti, perlomeno l'Inferno, è tra le opere più famose in assoluto. Trittico delle delizie, titolo che ovviamente non gli dà Hieronymus Bosch, vero? Potrebbe essere l'Eden, potrebbe essere il paradiso terrestre, potrebbe essere quello che accade se ci si allontana da Dio, ma lo vedremo proprio nei dettagli e ne parleremo in modo preciso. Chiuso, altra cosa che spesso non ci viene fatta vedere, è così. Sconcertante, inquietante, sembra quasi futuribile, no? Sembra un'opera realizzata negli anni 50 per qualche film di fantascienza. Tra l'altro guardate che meraviglia l'effetto proprio della trasparenza del vetro, e questo lo giustifichiamo proprio nella tradizione fiamminga dello studio dei vetri. Una sfera, una bolla di vetro dentro la quale il mondo sta prendendo forma. Terzo giorno della creazione. E questo c'è proprio scritto nella parte superiore della tavola, per cui lo sappiamo. Terzo giorno della creazione. È già stata creata la luce ed è il momento in cui Dio separa la terra dalle acque e inizia a creare ciò che starà sopra la terra. Gas nella parte superiore e, vi faccio vedere questo dettaglio, Dio creatore in alto a sinistra. Ricordatevi il De Garda, ve la ricordate piccina in basso a sinistra, qui sotto? Ma il De Garda era terrestre, era una donna. Questo è Dio, per cui Dio sta in alto per forza. E tutto il discorso che ci siamo fatti sulla Trinità di Campin, i copricapi, eccetera, guardate un po' effettivamente com'è questo Dio. Eccolo qui. Guardate quanto assomiglia nelle fattezze, mignon, vero? Abbiamo dovuto ingrandirlo, al Dio Padre che abbiamo lasciato in Campin. Lo stesso copricapo, ma questo non è un principe vescovo, questo è un papa, perché abbiamo un copricapo a tre livelli, doppia corona e apice gemmato. Certo, bisogna proprio ingrandirlo per vederlo, però è chiaro. Barba lunga e uomo anziano. È una delle rare situazioni in cui Hieronymus Bosch ci dà Dio Padre nelle fattezze di un uomo anziano, non nei panni di Cristo. Quasi sempre noi avremo il Dio in Bosch con le fattezze del Cristo. Per cui, seguendo l'antica tradizione iconografica, quella che diceva che Dio, non potendo essere visto, viene interpretato dalla figura di Cristo, perché è l'unica parte del divino che noi abbiamo potuto vedere, la parte umana. Questa è una delle rare situazioni in cui Dio Padre in Bosch è un uomo anziano e veste esattamente come ci ha fatto vedere Campin nelle opere che abbiamo visto un paio di ore fa. Ma di tutta questa cosa ne parliamo la settimana prossima, perché mi pare che siate ampiamente a livello. Sulla settimana facciamo una di più sempre. Sì, se a voi va bene, sì. E fatemelo vedere che è ora di fermarsi, perché veramente vi ho fatto fare pausa dopo 3 ore. Non va bene, eh? È troppo. Poi siete stanchi, poi fate 3 ore di pausa. Ecco, se volete, così poi sarà anche più facile parlarne, durante la settimana andate a vedervi il Trittico delle Delizie. così settimana prossima, quando ne parliamo, arrivate già con tutti i vostri dubbi e le vostre teorie, che sono sempre le ben accette, d'accordo? Ci vediamo martedì. No, ci vediamo mercoledì con voi. Buona settimana. Arrivederci. Arrivederci.